Allora, sembra che ci siamo. E questa sera, prima di iniziare a parlare della guerra, il titolo della serata, eccetera, eccetera, è nostro dovere ricordarci di un compagno che è venuto a mancare 2 giorni fa, il compagno Tito Pulcinelli, che si autodefiniva militante comunista anarchico, libertario, scusatemi. E adesso, sì, e quindi Renato, nonché delle edizioni Colibrì, bisogna dirlo, perché dei punti rossi, cioè per chi ha un'età un po' più avanzata come la mia che si ricorda, ci leggerà 2 righe per appunto ricordare Tito Pulcinelli, che tanto per fare in memoria fu uno, ingiustamente, tra gli arrestati e processati per le bombe alla fiera del 1969. Buonasera a tutti. Sì, Tito era stato nato nel 48, era arrivato a Milano negli anni 50 e ha vissuto ovviamente tutta la stagione 68-69, ma lui purtroppo nel 25 cioè, è stato coinvolto e incarcerato insieme ad altri per le bombe alla fiera del 25 aprile. Si è fatto forse un paio d'anni di galera, poi dopo è uscito, tra l'altro l'hanno anche assolto, quindi, perché non sono riusciti a imbastire niente contro di lui e quindi è uscito nel 71 e nel 71 ed era diventato un assiduo frequentatore della libreria La Vecchia Talpa, dove lì è stato conosciuto da diciamo da vari compagni sempre di tendenze in genere libertarie e poi è sempre stato uno che sempre presente nel movimento, sempre attivo con proposte di vario tipo, anche editoriali, quindi io l'ho conosciuto anche per quel versante. All'epoca l'editoria, diciamo, era un'editoria dal basso, dove le pubblicazioni erano assemblate e venivano proposte a un pubblico vario, sparso, era un po' diverso dalla situazione odierna. Qui adesso io leggerò alcune righe che ha mandato Claudio Albertani dal Messico, che era un suo amico, appunto l'ha conosciuto appunto nel 71 alla libreria La Vecchia Talpa e sono sempre rimasti in contatto. Claudio Albertani vive a Città del Messico ormai da parecchi decenni e anche Tito Pulcinelli a un certo punto se n'era andato da Milano e si era trasferito prima in Messico, poi in Guatemala e poi alla fine in Venezuela. Adesso leggo solo 2 righe di Claudio Albertani che dice Dani viveva in Venezuela, dove curava il sito Selvas.org, che si occupava di geopolitica latinoamericana. Avemmo degli screzi, quasi una rottura, proprio per via del Venezuela, però l'amicizia era troppo forte ed inoltre ammetto che in fondo Tito non aveva tutti i torti nella sua caparbia difesa del chavismo. Colpito da una grave malattia al fegato, era tornato a Milano a curarsi e c'era quasi riuscito, ma non ce l'ha fatta. E non ha potuto leggere il mio ultimo messaggio di affetto 2 giorni fa. E poi qui ricorda tutti gli amici che in qualche modo gli sono stati vicini e ricorda anche tutti i compagni che in questi anni ci hanno lasciato. Chiudo qui, ricordo solo una cosa di Tito, che aveva partecipato anche alla redazione e alla pubblicazione di una rivista che si chiamava Insurrezione, con tanti altri amici, e che era appunto insieme agli altri compagni, era la redazione latinoamericana, ecco, che ci mandavano pezzi o meno. E a parte questo ricordo un libro che mi aveva proposto, che avevamo pubblicato fra i tanti, che era un libro, l'aveva proposto lui, era da un'edizione francese, che era Grandezza e decadenza dei seguaci dell'amianto, che era un libretto che diciamo destrutturava faceva della controinformazione su un manifesto uscito in Francia che tesseva le lodi dell'amianto, che andava era innocuo, anzi faceva bene, bisognava mangiarlo anche la mattina. Questo qui in un periodo dove ancora non se ne parlava. Ovviamente un libro anticipatorio e come tanti libri, da un punto di vista così economico, è stato un vero fiasco. Così. Chiudo con questo piccolo aneddoto. Grazie. Bene, dopo aver ricordato Tito, iniziamo la serata. Con questa breve introduzione, che è l'introduzione relativa a chi lo organizza, cioè il Centro di Documentazione contro la Guerra. E noi come Centro di Documentazione contro la Guerra non possiamo che affermare la condanna sia dell'invasore russo che del governo di Kiev, che è al servizio degli oligarchi dominanti e che ha rappresentato la causa del conflitto, mettendosi ai piedi dell'Unione Europea e nelle mani degli USA e della NATO. Una guerra sempre più vasta a livello globale, in un conflitto euroatlantico esteso sino al teatro del Mediterraneo allargato, dove da anni si misurano protagonisti euroatlantici, compresa l'Italia. Quello che possiamo in breve ulteriormente definire è che questa guerra, nel cuore dell'Europa, è un prodotto della dissoluzione degli equilibri interimperialistici precedenti, un punto di svolta della rottura dei precedenti equilibri si è avuto con la ritirata americana e NATO dall'Afghanistan e che abbiamo avuto modo di definire come nuovo disordine mondiale. Questo nuovo disordine mondiale lo vediamo come tendenza verso un nuovo conflitto mondiale, e opporsi a questa tendenza significa partire dalla contrapposizione alla politica del nostro imperialismo e ai vari governi che lo sostengono, coniugandolo ai temi della precarietà, dell'ambiente, della sanità, e deve essere improntata questa contrapposizione, per quanto sia possibile, anche se oggi come oggi è un termine che trova scarsissima udienza anche in tutti quegli ambienti cosiddetti dell'estrema sinistra, mi riferisco alla logica del difastismo e all'avversione per ogni fronte della guerra. Prima di passare parola agli interventi di Sandro e Visconte, vogliamo precisare che intendiamo ragionare sull'argomento guerra al fine non di fornire soluzioni, ma cercare di delineare meglio lo stato di cose presenti. Una guerra prodotto del nuovo disordine mondiale, lo ribadiamo, così disordinata che secondo il parere di esperti militari nessuno dei contendenti può vincere. Capite bene che di fronte a affermazioni di questo tipo, di persone che se ne intendono forse, senza il forse, più di noi per quanto riguarda le questioni militari, che poi un giorno ci stiamo studiando e pensiamo di organizzare una serata proprio dedicata solo alla questione militare, anche questa altra questione che l'estrema sinistra, i pacifisti, tutto un'allegra brigata rifiuta nei termini della non violenza, eccetera, eccetera, a parte che a furia di non violenza, guarda dove siamo arrivati, vedremo di riprendere in considerazione. Certo che una guerra che nessuno può vincere, sotto certi aspetti noi non possiamo far altro che augurarci che questo livello si mantenga, anche se evidentemente si potrà mantenere fino all'ultimo ucraino. Detto questo, è comunque cinicamente interessante che questo si svolga, nel senso che comunque non si debordi in un conflitto ancor più generalizzato che potrebbe mettere in forse qualsiasi altra ipotesi, soluzione, e sotto certi aspetti, qualora si passasse all'uso del nucleare, addirittura si potrebbe far saltare il pianeta, e quindi di alternative non se ne parlerebbe più. Niente, su questo io passo già la parola a Sandro, perché non voglio dilungarmi, perché sia Sandro che Visconte cercano proprio di puntare il dito su tutte le questioni e approfondire la faccenda. L'ultima cosa che voglio dire, questo non significa che non ci auguriamo, così come poi in molti paesi si vede che movimenti che in un primo momento lottano contro il caro vita, lottano contro discriminazioni razziste, contro la questione delle donne, ce ne sono i migranti, ce ne sono di questioni irrisolte. In primo luogo, altro tema che teniamo sotto osservazione, che riprenderemo sicuramente, la situazione interna americana, che ha visto vede sempre più una polarizzazione, e addirittura qualcuno è andare a delineare una possibilità di una guerra, seconda guerra civile americana, forse per completare la prima, che non si è definitivamente realizzata. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a voi che siete intervenuti molto numerosamente. E le cose che voglio dire, le cose sono veramente tante, cercherò di riassumere pensieri recenti, perché d'altra parte è da un anno che su Carmilla porto avanti degli articoli che si intitolano appunto Il nuovo disordine mondiale, sono stati 20 fino all'ultimo, poi interrotto non perché non ci fossero più cose da dire, ma perché mi sarei trovato costretto a ripetere cose già dette, le dirò subito. Mentre invece mi sembrerà importante, sono contento che Marco abbia accennato questo fatto, cominciare anche proprio a discutere in termini militari di questa guerra, perché la guerra, ricordiamolo, è un fatto sociale, è un fatto economico, ma è soprattutto un fatto militare. E ignorare questo e accontentarsi di fare delle, lasciatemelo dire, delle analisi di tipo ideologico, in cui ci sprofondiamo nella parola imperialismo, capitalismo, sfruttamento, eccetera, non è sufficiente a capire quello che poi succede e soprattutto quello che potrebbe succedere. È chiaro che alle spalle della mia analisi e anche di altri compagni, insomma, sicuramente l'analisi di tipo marxiano c'è, no? Io ho cominciato 4 anni fa a pubblicare un primo libro che si intitolava La guerra che viene, l'abbiamo presentato anche qui, all'epoca non molti credevano a questa possibilità, purtroppo da un anno a questa parte, dico purtroppo perché avrei preferito cannare completamente la previsione da questo punto di vista, quello che c'era scritto in quel libro si è rivelato in gran parte corretto, nella sostanza corretto. Perché da dove arrivava questa guerra? Il titolo è già compreso nel nuovo disordine mondiale, no? Cioè c'è un vecchio ordine mondiale che non funziona più, o perlomeno c'è stato un vecchio ordine mondiale che si basava sull'equilibrio interimperialistico sostanzialmente tra Stati Uniti e Russia. È crollata quella vecchia divisione condominiale del mondo. Gli americani pensavano di aver vinto, e se vi ricordate proprio i tempi di Bush hanno parlato di nuovo ordine mondiale, e questo nuovo ordine mondiale non è mai comparso. Lì è cominciato, lasciatemi usare il termine, è cominciato il casino, che è precipitato nell'attuale disordine mondiale, che è stato anche frutto di quella globalizzazione che doveva anche essere stabilizzatrice degli interessi del capitalismo occidentale statunitense o mondiale, se vogliamo. È chiaro che oggi sulla scena, noi vediamo la scena tra Russia e Ucraina e i media tendono a parlare di questo, ma basterebbe vedere come si è chiuso il G20 ieri per capire dove stiamo andando. È un G20 che si chiude senza nessun comunicato, e qualche giorno prima c'era stata un'altra riunione internazionale dove non c'era stato nessun comunicato congiunto, e non solo perché Stati Uniti e Russia e Cina non hanno firmato quel documento, ma proprio perché l'accordo non c'è più. C'è stata una votazione alle Nazioni Unite subito dopo l'inizio della guerra in cui sì, i numeri dicevano 140 paesi hanno votato a favore, 7 contro e 30 si sono astenuti. Ma se uno andava a fare i conti si accorgeva che in quella minoranza di paesi era compresa la maggioranza degli abitanti del pianeta. E ancora oggi, rispetto all'ultima votazione alle Nazioni Unite, siamo rimasti nella stessa condizione. Cioè l'Occidente non è più il traino politico mondiale. Le lotte anticoloniali degli anni 60 e 70 hanno portato sul lungo periodo a questa situazione in cui c'è una parte del mondo che non sopporta più il dominio occidentale. Con questo non voglio dire sono buoni, sono perfettamente d'accordo con Marco e con tutti coloro che affermano che noi non ci schieriamo. È un disastro schierare, non è una questione di campo, non è una questione di buono e cattivo. Noi siamo contro la guerra, l'ho detto anche recentemente in altre riunioni, io non sono per la pace, io sono contro la guerra. Per quale motivo? Perché non so cosa sia la pace, ma so cos'è la guerra. Non so cosa sia la pace perché ognuno ha la sua pace. Putin avrà sicuramente la sua pace, Zelensky la sua, Biden altrettanto e così via, no? La Chiesa avrà la sua pace. Io però non voglio la guerra, non voglio la guerra di carattere capitalistico e imperialistico che sta imperversando e si sta allargando a velocità abbastanza drammatica, no? Ed è una guerra che conferma alcune ipotesi che ho cominciato a fare negli ultimi scritti. Dicevo, guardate, qui dobbiamo studiare di più la questione militare. È inutile che ci chiudiamo dietro, appunto, scusate se ripeto le cose detto da Marco, ma dietro la bandiera pacifista, oppure noi non ci occupiamo della questione militare, perché lì si giocano partite importanti, perché lì proprio oggi vediamo che questa guerra ha dimostrato che quella favola che l'Occidente si è raccontato negli ultimi 30 anni ovvero di guerre fatte come operazioni di polizia internazionali, le guerre intelligenti, piccoli eserciti, corpi scelti, hanno relativamente funzionato finché si trattava di colpire paesi che non erano certo lo stesso livello economico e militare di chi in qualche modo interveniva, cioè degli Stati Uniti, della NATO, dell'Occidente. Ma anche in questo modo, dove la superiorità tecnologica dell'Occidente era evidente rispetto all'Iraq, o rispetto al pastore afghano, le cose non sono andate così bene. In Afghanistan le cose non sono andate bene. E oggi che si combatte una guerra vera, una guerra tra forze armate che hanno, non considero l'Ucraina come sola, considero l'Ucraina con l'appoggio occidentale, la Russia, con forze armate che hanno grosso modo lo stesso potenziale, si vede che siamo ancora a livello della seconda e della prima guerra mondiale. Cioè abbiamo bisogno di un numero incredibile di armi, un numero enorme di soldati, abbiamo bisogno di tanta carne, abbiamo bisogno nel senso come nazioni coinvolte, di tanta carne da macello, c'è bisogno di tecnologia spicciola che si possa utilizzare in gran quantità per distruggere il nemico, e guarda caso una delle difficoltà in cui si è trovato l'Occidente è che non ha abbastanza munizioni per rifornire l'alleato ucraino. Ora, noi dobbiamo sempre stare attenti, no? Quando si parla di armi parliamo di un settore economico piuttosto importante, quindi è chiaro che l'industria delle armi, dopo che per anni ha cercato di spacciare agli stati armi intelligentissime, tecnologicamente avanzate, dal costo pazzesco, adesso forse vorrebbe anche vendere munizioni, no? Munizioni, cannoni e tutto quello che serve. Però effettivamente in questa guerra noi assistiamo al grande consumo di vite e di mezzi che hanno caratterizzato i due conflitti mondiali. Addirittura siamo andati un passo un po' indietro, no? siamo di fronte a una guerra che è una via di mezzo tra la prima e la seconda, cioè una guerra di movimento ma anche di trincea. Poi ci sarebbero da fare un sacco di considerazioni tecniche su questo, però vediamo che c'è. E cosa ci dice che stiamo andando verso una guerra allargata? La data non ve la dirò. Aprivo il libro 4 anni fa dicendo: questo non è un libro che vi dice la data e il momento in cui scoppierà la guerra. Però sicuramente la guerra verrà, e la guerra piuttosto grossa è venuta. È una guerra in cui sono più coinvolti i paesi occidentali. È una guerra che si sviluppa in un territorio in cui si sono già sviluppate 2 guerre mondiali precedenti, nel cuore dell'Europa, e che in qualche modo minaccia la stabilità e il ruolo che alcuni stati europei pensavano di aver acquisito una volta per tutti, per esempio la Germania. Una guerra che torna a portare in Europa degli odi che hanno radici storiche profondissime. La Polonia, eternamente divisa, un paese senza frontiere naturali, eternamente divisa tra Germania e Russia, di cui non può essere alleata definitiva né dell'una né dell'altra, ma può essere solo nemica di tutte e due. E tutte e due mirano costantemente a ridurre. Oggi, non a caso, ci accorgiamo che gli Stati Uniti mirano a fare della Polonia forse la prima potenza militare in Europa. Ma non a caso la Germania sta riarmando. La Francia ha deciso di riarmare, e molto lontano da noi, ma vicino a Taiwan, che è un altro focolaio della guerra futura, il Giappone ha deciso di riarmare pesantemente. Cioè, sono fatti che erano assolutamente, per certi versi, prevedibili dal mio punto di vista, ma imprevedibili per la maggioranza di coloro che ragionavano di politica internazionale fino a qualche anno fa. E quello a cui stiamo assistendo è uno spettacolo che sta tra il drammatico e il ridicolo. Si è talmente parlato poco di guerra che gli stessi stati coinvolti sono in difficoltà. Questo balletto di fornire i carri armati all'Ucraina, in cui tutti dovranno dare eccetera, ci rivela che nessuno si aspettava di finire di nuovo in questo calderone. Ma i carri armati che vengono proposti per l'Ucraina sono davvero troppo pochi per far fronte al nemico russo. Ora parliamoci chiaro: nelle battaglie della seconda guerra mondiale, dove c'era la fanteria, guardate che là dove c'è necessità di fanteria, nella guerra moderna c'è bisogno di truppe corazzate, c'è bisogno di trasporto truppe. Nella battaglia di Kursk, che è stata la più grande battaglia di forze corazzate della storia, si sono scontrati qualcosa come 9.000 carri armati, 10.000, 6.000 per i russi, 4.000 per i tedeschi. In un'epoca in cui la Germania era entrata in guerra con la Russia portandosi dietro qualcosa come 3 milioni di uomini. Ora, i numeri a cui noi dobbiamo pensare sono questi. Non sono quelli delle forze speciali che fanno la forza, l'operazione di polizia e vanno a cercare Bin Laden, che era più furbo di loro, aveva lasciato il telefonino sul dorso di un asino nelle caverne afghane. La guerra vera è questa cosa qui, è una guerra che colpisce i civili, è una guerra che colpisce direttamente i civili, con una caratteristica però per adesso. Rispetto alla seconda guerra mondiale, dove il numero di civili fu infinitamente superiore a quello dei militari su tutti i fronti di guerra, in questa guerra siamo tornati a livelli di prima guerra mondiale, dove per adesso i soldati morti sono più dei civili ammazzati. Però la corsa alla preparazione bellica è iniziata da parte di paesi importanti. Qui non sono più i paesi del Golfo che comprano qualche carro armato, un po' di armi dagli Stati Uniti o dalla Francia, eccetera. Qui abbiamo la Germania, abbiamo la Francia, abbiamo il Giappone. La Russia, si sa, ha già sviluppato un'intera economia di guerra, questo ce lo dicono gli esperti. La Cina sicuramente sta a vedere cosa sta succedendo, e la stessa India nel suo comportamento dal punto di vista occidentale è sicuramente preoccupante. È chiaro che Cina, India, Russia tra di loro non vanno troppo d'accordo, ci sono dei conflitti su cui l'Occidente cerca di giocare. Però sicuramente anche Cina e India, che saranno a breve, l'India tra poco supererà anche la Cina come numero di abitanti, e sono sicuramente le due economie avviate ad avere un predominio mondiale, hanno ben poco da guadagnare a favorire soltanto l'Occidente. Hanno poco da guadagnare ad accelerare i tempi della guerra, quindi ci tengono a rallentare. Ma l'Occidente, gli Stati Uniti, io non voglio incolpare gli Stati Uniti con quei discorsi un po' sciocchi, per cui Yankee Gom e via, però gli Stati Uniti sono veramente nella posizione di poter prolungare a lungo il rinvio di una guerra? Possono rallentare, ma quanto possono rallentare con una Cina in crescita? Perché in questi giorni, fino a qualche giorno fa, ci dicevano la Cina è in crisi, poi dopo escono i dati ufficiali e ci dicono che la Cina ha raggiunto uno sviluppo industriale che è il più grande da 11 anni a questa parte, in un paese in cui 11 anni fa lo sviluppo, la produzione industriale era già elevatissima. È un paese che detiene tutta una serie di materie prime che sono fondamentali per le industrie moderne, le famose terre rare. Chi predomina nelle terre rare oggi nel mondo è la Cina. E anche nella produzione dei famosi microchip, adesso sì, Kyocera, la ditta giapponese che produceva in Cina, ha detto adesso sposto gli stabilimenti in Giappone, ma li deve ancora spostare. E sicuramente i cinesi non è che se non producono i microchip per Kyocera non producono più microchip. Cioè la competizione è abbastanza frenetica. Questo è il rischio per cui, è il motivo, non il rischio, per cui secondo me tra un anno, tra due anni, guardate che poi gli americani ce l'hanno già detto, un comandante americano ha detto 2025 guerra con la Cina, poi qualcun altro l'ha spostato un po' più in là verso il 2030, ma non sono cose di cui non si sta ragionando. Il grosso pericolo qual è? Che rispetto all'Occidente abbiamo delle nazioni che sono tutt'altro che democratico simpatiche, dove però hanno ancora un'organizzazione nazionale militare piuttosto ampia. L'Occidente si è disabituato anche soltanto al discorso dell'esercito di leva. E sicuramente far passare in Occidente oggi l'idea di un esercito di leva che deve andare a sfociare in una guerra, qualche difficoltà lo incontrerebbe. Fortunatamente. Però da questo, dal mio punto di vista, deriva un secondo rischio. Se non riusciamo a mettere in piedi eserciti, se l'Occidente, gli Stati Uniti, con tutto quello che hanno a disposizione, non riescono a fare uno schieramento NATO, gli Stati Uniti sono abituati a far combattere altri. Nella prima guerra mondiale hanno fatto combattere i francesi prevalentemente. Nella seconda hanno fatto combattere tutti, loro hanno combattuto effettivamente soltanto nell'area del Pacifico, perché intanto Stalin gli ha dato una bella mano sul fronte orientale, combattendo contro i tedeschi, ma pensiamo soltanto alla campagna d'Italia, dopo il fallito sbarco ad Anzio, americano, l'Italia è stata risalita da truppe che erano polacche, francesi, marocchine, indiane, neozelandesi e altre nazionalità di questo genere, facendo combattere gli altri. Non solo nell'esercito statunitense, molto spesso, anche sul fronte europeo, anche sul fronte del Pacifico, spesso un contingente importante di soldati erano i soldati afroamericani, che sono anche quelli che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato problema a riportare a casa tanti soldati afroamericani, e non solo, ma principalmente loro, al rientro dalla guerra nel Pacifico sono stati lasciati anche per mesi sulle navi in mezzo al Pacifico perché sbollissero i bollenti spiriti, ovvero la furia. L'ho già detto altre volte, nella guerra civile russa è inutile che pensiamo che ha vinto solo la bravura militare di Trotsky. Dopo un anno di guerra, i soldati americani in Siberia, i soldati inglesi ad Arkhangelsk e i soldati francesi si sono ribellati verso i comandi e quindi o venivano spediti a casa o avrebbero fatto esattamente quello che avevano fatto i soldati russi sul fronte. Per questo vengono abbandonate le armate bianche e poi successivamente sconfitte dalle armate rosse, ma proprio perché quei soldati si erano rifiutati di combattere. E addirittura si narra che durante la guerra civile russa già i soldati americani che partivano dai porti sul Pacifico andavano verso la Russia, andavano lì, volevano fare la rivoluzione. E quindi li hanno fatti tornare indietro subito, perché sennò evidentemente c'erano delle cose che non funzionavano. Ecco, dobbiamo fare i conti con questo. Io credo che le guerre finiscano quando si sciolgono gli eserciti, quando gli eserciti si ribellano, non c'è niente da fare. Qui sarebbe un capitolo lungo, ma dalla rivoluzione russa in avanti abbiamo queste. Però abbiamo anche di fronte un altro rischio. Siamo di fronte a una situazione in cui gli attuali principali contendenti non possono perdere. Si dice spesso, giustamente, non si può vincere. Ma Putin non può perdere. Ma più di Putin, gli Stati Uniti non possono perdere la posizione di privilegio mondiale. E la Cina non può perdere la sua attuale situazione di crescita. Indipendentemente da quello che potrà succedere all'interno degli eserciti, questo aumenta il rischio di una guerra nucleare. Perché io l'ho detto più volte, guardate che il XX secolo si è fermato alla prima e alla seconda guerra mondiale. L'evoluzione di quello stile militare non è la guerra intelligente dei 10.000 addestrati, quelli che vediamo nei film americani, Navy SEALs o gli Spetsnaz russi, o chiamateli come volete. Il Kolmoskin, tutte queste, no? Non è quella roba lì. È una guerra massiccia, e l'evoluzione di quella guerra può essere solo la guerra nucleare. Dopo la guerra dei milioni di uomini e delle migliaia di mezzi corazzati e delle centinaia di migliaia di proiettili e missili sparati, dopo c'è la bomba atomica, c'è l'arma nucleare. È inutile continuare a pensare che questa sia un'ipotesi fasulla. Quando Putin ci dice che la Russia, e ce lo dicono anche gli esperti militari, è più avanti nella tecnologia nucleare e nella missilistica adatta a trasportare testate nucleari, e gli americani lo sanno, missili più veloci che le normali misure contraeree antimissilistiche non riuscirebbero a intercettare, quello ci dicono. Ora, se siamo arrivati a questo punto, non è perché mi piace o ci piace particolarmente soffrire, quindi ingrandire il rischio, ma questo è il rischio reale. Quindi è chiaro che di fronte a questa competizione, in una società che, non dimentichiamolo mai, il capitalismo non vive di equilibrio, vive di disequilibrio. Funziona così. Io mi arricchisco, tu ti impoverisci. Tu sei il mio competitor, devi morire. Non può esserci equilibrio. Non troviamo equilibrio tra industrie strategiche che dicono, vabbè, 100.000 automobili li vendi tu, 100.000 le vende l'altro, eccetera. No, io voglio vendere tutte le automobili possibili. Se tu muori, meglio. Questa è la situazione. La società dell'equilibrio era la società che è morta con Napoleone e quella che Metternich, al congresso di Vienna, ha cercato di rimettere in piedi. Cosa ha cercato di fare? Ristabilire l'equilibrio europeo. Se vi ricordate, tra la sconfitta di Napoleone a Waterloo e il 1848, sono passati 33 anni. È finita la società dell'equilibrio, quell'equilibrio tra gli stati, tra le potenze, tra le economie, che era una sorta di cortesia tra le monarchie. Il capitalismo l'ha spazzata via. Ma guardate queste cose qui, senza fare della retorica sciocca, Marx e Engels dicono già nel Manifesto del Partito Comunista nel 1848, dicono, quella roba lì è finita, il capitalismo porta via qualsiasi equilibrio. Quindi non possiamo aspettarci oggi che ci sia una ricerca dell'equilibrio. Oggi ci può essere solo la ricerca di un equilibrio determinato dalla vittoria di qualcuno. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un formale equilibrio. Russia e Stati Uniti, due paesi vincitori. Dopo la fine dell'URSS non c'è più stato equilibrio. C'è stato un forte disequilibrio con una potenza che cercava di concentrare in sé tutta la ricchezza, le potenze militari, eccetera, e altri paesi che, percorso naturale del capitalismo, non perché sono, hanno sviluppato un'economia che oggi non può accontentarsi della fetta di mercato di ricchezza che gli Stati Uniti o l'Occidente potrebbero concedere loro. Dico soltanto più una cosa. Michel Foucault ha detto una cosa negli anni 70 che io ho sempre tenuto da conto. Lui diceva: bisogna rovesciare la frase di von Clausewitz, no? Von Clausewitz cosa diceva? La guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Cioè Foucault diceva: no, in questo mondo la politica è la continuazione della guerra in altri mezzi, perché questa è una società che si fonda sul disequilibrio e sulla guerra. Quindi non abbiamo bisogno oggi di dire: oddio la guerra, ma dai, non dirci queste cose, come qualcuno mi diceva 4 anni fa quando prendeva lì. Anzi, qualcuno proprio mi derideva, diceva: guarda, ormai fior di personaggi di intellettualità italiana, diceva: no, ma ormai Stati Uniti e Russia si sono accordati sul gas, non ci sarà più nessuna guerra, si è visto. Dobbiamo pensare a questo, che in una società che già normalmente si fonda sulla guerra, guerra economica, competizione tra le classi, competizione tra gli individui, competizione tra gli stati, competizioni tra le multinazionali. Ecco, c'è qualcosa che non può più essere minimamente diretto secondo l'ordine precedente. E quindi questo nuovo disordine è alla base di questa guerra e di tutto quello che potrà avvenire. Grazie Sandro. Scusate se mi sono dilungato forse un po'. Aspetta. Grazie a tutti per essere intervenuti. Comunque, se parliamo di terza guerra mondiale, sembra che di questo stiamo parlando, intanto è necessaria una prima precisazione. Come la vediamo questa terza guerra mondiale? Come una guerra convenzionale o come una guerra nucleare? Sandro ne ha parlato. La guerra convenzionale, più o meno convenzionale, perché poi adesso ci sono tanti mezzi, diciamo, molto più tecnologici, eccetera, richiede uno sforzo impressionante da parte di chi si mette sulla strada della guerra. Non sono gli stati che producono le armi. Le armi le produce Lockheed, Boeing, da noi Leonardo, Finmeccanica, Fincantieri, eccetera, eccetera. Cioè società che su questo ovviamente fanno profitto e diciamo devono essere finanziate dallo Stato a questo punto. Mi riferisco un po' a quello che diceva Keynes sulla domanda aggiuntiva che lo Stato deve creare per risolvere la crisi. Se il keynesismo di guerra è esattamente questo, cioè quasi la metà della produzione, se non di più, viene comprata dallo Stato. E non parliamo solo di armi, ma di tutto quello che è necessario, la logistica, l'alimentazione dei soldati, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, poi del keynesismo di guerra alla fine farò una citazione. Comunque, diciamo, questo grande sforzo che richiede una guerra mondiale, in qualsiasi modo la vogliamo prefigurare, attualmente non so se chi è che la può sostenere. Gli Stati Uniti sono in una situazione disastrosa, cioè interna. Si parlava di guerra di secessione seconda, cioè di polarizzazione sociale. L'industria è stata, non dico smobilitata, ma insomma quasi, come poi dirò. La Russia fonda la sua economia solo sulla esportazione di materie prime. Non mi pare che abbia una grande tecnologia, a parte quella militare che ovviamente ce l'ha, però da un punto di vista industriale è piuttosto arretrata, è una società arretrata proprio, diciamo la verità. La Cina sicuramente ha dalla sua lo sviluppo industriale, le esportazioni eccetera eccetera, dal punto di vista militare è ancora abbastanza indietro rispetto agli Stati Uniti, quindi non penso che gli convenga in questo momento fare una guerra. E certo, se poi sarà costretto a difendersi. Questo se parliamo della guerra, diciamo, convenzionale, più o meno. Ma che cos'è la guerra per il capitalismo? È la risoluzione di una crisi capitalistica. Le guerre del Novecento ci hanno insegnato questo. Lasciamo stare quelle prima, però. Quelle del Novecento ci hanno insegnato che in una situazione di crisi acuta, economica, di recessione capitalistica, la guerra è l'ultima, l'ultima appiglio, l'ultima risorsa per la risoluzione di questa crisi. E la crisi del 29, che ci fu, poi il tentativo di risolvere questa crisi con l'intervento statale negli Stati Uniti, Roosevelt, dall'altra parte c'era Stalin ovviamente, quindi anche intervento statale anche lì, cioè che non bastò, nel 38 di nuovo c'era la crisi, quindi la guerra era inevitabile per risolvere questa crisi capitalistica per poi ricostruire, poi dirò alla fine. Quindi sì, la guerra come risoluzione della crisi capitalistica ci può stare. Una guerra nucleare, qui ci metto un grosso punto interrogativo, cioè la guerra nucleare cosa vuol dire? A parte la distruzione del genere umano, però anche il modo di produzione capitalistico se ne va a quel paese. Non so se riescono prima ad andare su Marte i capitalisti, come sembra che vogliono fare, magari dopo. Pure se distruggono la terra non gliene frega niente, comunque anche il modo capitalistico di produzione sarebbe finito, una specie di suicidio. Certo, c'è anche l'irrazionale nella storia, no? Cioè che non tutto è razionale, il dottor Stranamore forse ci può capitare, però diciamo razionalmente mi sembra difficile o perlomeno abbastanza rischioso pensare che qualcuno preme il bottone, insomma, ecco, questa era... perlomeno non lo ritengo così automatico, ecco, mi fermo qui perché sennò... Ma parliamo adesso della guerra in corso. Come diceva anche Sandro, ricorda fra la prima e la seconda guerra mondiale, cioè dopo il primo tentativo di Blitzkrieg della Russia, che dovevano arrivare a Kiev e poi non c'avevamo manco la benzina per arrivarci, file di camion che erano rimasti fermi eccetera, c'è quasi quasi, faccio una battuta, da rimpiangere gli imperialismi dei vecchi tempi, perché la Wehrmacht in qualche giorno li avrebbe fatti fuori, insomma, questo non c'è dubbio, come aveva già fatto tempo fa. Quindi comunque, dicevo, dopo il primo tentativo di Blitzkrieg, il generale Inverno, la guerra si è impantanata, come è successo a Napoleone, alla stessa Wehrmacht, è diventata una guerra di posizione territoriale. A questo punto si parla di territori, di conquista di territori, cioè Donbass, Lugansk, Crimea, Mar Nero, quindi tutta la questione anche logistica delle merci che passano da lì, eccetera. Chi è che controlla questa situazione? Non so come andrà a finire, però la guerra di posizione, simile più alla prima forse che alla seconda, registra una carenza sia di soldati. Gli Stati Uniti, scusate, la Russia per reclutare quelli che vanno al fronte, intanto ci ha mandati i carcerati, i detenuti, per forza. Poi va a reclutare nelle regioni sperdute, offrendo soprattutto la Wagner, questi contractors, no? Che sono quelli che sono i più cattivi, vanno a proporre, diciamo, qualcosa come 3.000 rubli al mese, o addirittura qualcuno dice 170.000 rubli, cioè circa 5.000 euro, che sarebbe una cosa stratosferica per gli stipendi russi normali, diciamo. Poi c'è il fenomeno della fuga, non la chiamiamo disfattismo, ma diserzione, sì, cioè quelli che sono fuggiti in centinaia di migliaia, sembra, che certamente non erano quelli del Kirghiz, cioè delle zone, eccetera, ma erano quelli di Mosca, di San Pietroburgo, cioè quelli probabilmente più i cervelli, diciamo, della Russia, quelli che più o meno avevano in mano, diciamo, i punti più importanti tecnologicamente, sono quelli che se ne sono andati, anche perché avevano i soldi per farlo. Quindi carenza di soldati, carenza di munizioni, lo diceva anche Sandro. Io qui ho visto un articolo su Simplicius 76, che fa proprio dei dati, cioè l'Ucraina utilizza 5.000-6.000 proiettili al giorno, la Russia fino a 60.000, in media 20-30.000 al giorno. Gli Stati Uniti, che si autoproclamano potenza, eccetera, eccetera, ne producono 14.000 al mese. Adesso hanno triplicato o tentano di triplicare la produzione fino a 40.000 pezzi per mandarli appunto in Ucraina. È uno sforzo abbastanza grande, che non è che lo fai subito, ci vogliono 2 o 3 anni, perché le aziende produttrici di armi intanto hanno ancora macchinari, di queste armi almeno, hanno macchinari ancora piuttosto arcaici, dice qua. Macchine che producono queste armi che hanno più di 80 anni, insomma, che vanno rinnovate. Cioè la cosa non è così semplice, il riarmo, non è così semplice la riconversione industriale in termini militari. Quindi carenza anche di munizioni, di logistica, come abbiamo visto. La contesa territoriale non so come possa andare a finire. L'Ucraina sarà smembrata? D'altra parte, lì l'Ucraina, c'erano i russi da una parte e i mezzi polacchi dall'altra parte. Cioè una situazione che non so come... Cioè è già interno il problema. Comunque non voglio insistere su questo perché è tutto ancora da vedere. Quindi sicuramente ci sarà una rovina del paese, l'Ucraina è proprio a pezzi. Già prima i governi dopo Maidan si erano indebitati fino all'osso con il Fondo Monetario Internazionale. Tutte le grandi multinazionali hanno cominciato ad arraffare, soprattutto i terreni agricoli che fanno gola, sono quelli che poi erano la ricchezza dell'Ucraina, no? A parte il Donbass, che ci sono le miniere, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente è un paese rovinato, come è stato l'Iraq, come è stata la Libia, come certo, è nel cuore dell'Europa, questo è un problema, indubbiamente. Però, diciamo, quella che nel centro di documentazione avevamo chiamato guerra permanente è proprio dovuta al fatto che, come diceva Mattichi in un suo articolo, la guerra permanente è figlia della depressione economica. Se non ci sono le forze per portare avanti una guerra, diciamo, risolutiva, importante, con vittorie, vinti, eccetera, eccetera, diventa permanente, cioè non c'è una soluzione. Allora, un altro punto, siccome il titolo della serata è sul countdown, cioè conto alla rovescia, vuol dire questo, per fare il conto alla rovescia, cioè meno 4, meno... dobbiamo avere qualche indice, no, per dire sì, c'è questo, aumenta questo, eccetera, eccetera, allora ci avviciniamo. Come per gli ambientalisti dicono ci avviciniamo alla mezzanotte nucleare o alla mezzanotte ambientale, eccetera, eccetera, ma quanto manca? Il primo indice che viene in mente, naturalmente, è il livello delle spese militari. A che livello sono, no? Questo è, insomma, è il più evidente, no? Forse ce ne sono altri, comunque. Ebbene, da questo punto di vista, anche qui ci sono dei dati. C'è stato sicuramente un aumento ultimamente, anche abbastanza accelerato, questo non si può negare. Però, diciamo, il livello degli ultimi decenni degli USA, Stati Uniti, è 3% del PIL. Il riferimento è sempre al prodotto interno lordo, cioè alla capacità economica. Siamo ben lontani, non diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale, quando la percentuale è il 40%, ma anche dalla guerra di Corea, 15%, dalla guerra del Vietnam, 10%. Oltretutto devo dire che gli Stati Uniti una guerra non l'hanno mai vinta, perché in Corea, dopo la in Corea hanno pareggiato, vabbè, insomma, è stata divisa. Il Vietnam hanno perso. Dalla Somalia e dall'Afghanistan sono scappati in maniera abbastanza indecorosa. In Iraq, insomma, hanno vinto facile contro Saddam Hussein, che le armi di distruzione di massa non ce le aveva. Quindi, diciamo, questa superpotenza americana, a parte Grenada e Panama, diciamo, più di quello ha toppato, come dicono a Roma, molte volte. Quindi, vabbè, questo è un inciso. E la Russia, ecco, parliamo sempre delle spese militari, la Russia ha avuto un incremento notevole nel 2015, arrivata al 5,43%. Quindi evidentemente si stava preparando quando c'è stata appunto la secessione del Donbass e del Lugansk. Si stava preparando a intervenire, poi è scesa da questa percentuale. Comunque, diciamo, c'ha più riserve sicuramente, anche dal punto di vista delle munizioni di cui parlavo prima, è più attrezzata come munizioni. Quindi, diciamo, c'ha una potenza militare indubbiamente notevole. L'Europa fa parte della NATO sostanzialmente. Il presidente Trump, che c'è stato prima di Biden, aveva detto che gli Stati Uniti non volevano più pagare tutte le spese della NATO, e ha detto agli alleati, dice, dovete almeno il 2% delle spese del PIL sempre, dovete pagare le spese militari. E stanno arrivando adesso al 2%, cioè, perché Trump ci è passato da un po', però adesso con questa guerra, quindi la fornitura delle armi all'Ucraina, sono arrivate più o meno al 2%, questo era l'obiettivo. E come si diceva anche prima, i carri armati che danno sono abbastanza pochi, cioè, non so, si parla di qualche decina, adesso non so esattamente, comunque... Quindi le spese militari, se li prendiamo come indice del countdown, sono sì in aumento, ma ancora lontane da quelle tipiche di un'economia di guerra. E quando parliamo di economia di guerra, altrimenti detta keynesismo di guerra, ci riferiamo, uno, a una situazione in cui quasi tutta la produzione è comprata dallo Stato. Si ha una riconversione produttiva a scopo bellico, di un 50% dell'industria, se non di più, quindi per la produzione di beni di consumo non riproduttivo. Cosa vuol dire? Le armi e anche le produzioni belliche, anche quelle produzioni di lusso, cioè tutto ciò che non rientra nel ciclo di accumulazione del capitale, che quindi comporta anche consumi di massa, si viene consumato improduttivamente. Le armi si distruggono, sì, certo, c'è chi ci guadagna, però il capitale sociale nel suo complesso non accumula. Infatti l'economia di guerra è un'economia tipica in cui non c'è accumulazione di capitale, cioè il capitale fisso esistente, industrie eccetera, viene utilizzato al massimo, mentre nei periodi di pace non viene utilizzato al massimo. Viene utilizzato al massimo, ma non vengono fatti nuovi investimenti in capitale fisso, in macchine, eccetera, eccetera. Qui volevo citare l'ultima cosa, appunto, sull'economia di guerra, un testo di Paolo Giussani, che è mancato purtroppo 3 anni fa, e che in questo articolo commentava il testo sempre di Mattick, cioè Marx e Keynes e i limiti dell'economia mista, il famoso testo, diciamo, che con la critica del keynesismo che Mattick fece in maniera molto opportuna. Qui dice che appunto nella Seconda Guerra Mondiale si è visto il periodo keynesiano per eccellenza nella storia economica. Ciò che fra l'altro contraddistingue la Seconda Guerra Mondiale è un'epoca completamente priva di accumulazione in capitale fisso, come dicevo, cioè di nuovi investimenti, resa del tutto impossibile dalla riconversione produttiva a scopo bellico, ossia del fatto che i mezzi di produzione, macchine, la manodopera, quindi la forza lavoro, che precedentemente producevano impianti, macchinari, strutture, strumentazioni, cioè quello che Marx divideva pure, no? Cioè la produzione di macchine e la produzione per il consumo, no? Erano due settori capitalistici che non sempre sono in equilibrio, anzi quasi mai, però comunque sono diversi. Cioè, se non si fanno le macchine non si fanno neanche questo, cioè tutto il resto. Quindi sia la manodopera sia i mezzi di produzione venivano ora impiegati per la produzione di beni di consumo non riproduttivo, armi e apparato bellico in generale. Altro punto caratteristico dell'economia di guerra: si riducono i consumi di massa, c'è poco da fare, cioè qualcosa di simile c'è stato nella pandemia, infatti l'avevamo già segnalato, no? Cioè alcuni fenomeni tipici dell'economia di guerra, cioè il consumo di massa dei beni di riproduzione normali, appunto siccome c'era il lockdown eccetera si era, non dico bloccato, ma quasi, a parte l'industria farmaceutica, quella alimentare ovviamente. Quindi c'era qualcosa che richiamava l'economia di guerra, l'avevamo già detto. Poi dopo non è durato un anno, due, insomma, poi è finita. Quindi, altro punto dell'economia di guerra, si formano delle riserve liquide inutilizzate, i cosiddetti risparmi, perché la gente non spende, quindi risparmia. Però, diciamo, questi risparmi o vengono forzosamente prelevati dallo Stato in vari modi, attraverso tasse eccetera eccetera, sempre per finanziare la guerra, e questo non credo che sia molto bene accetto dalla gente. Nelle elezioni di medio termine americane, che ci sono state l'anno scorso mi pare, si temeva che i contribuenti americani, diciamo, esitavano nel finanziare la guerra in Ucraina. E dice, come noi che ci frega, no, vabbè, non diciamo proprio così. Comunque, oddio, Biden temeva una sconfitta che poi non c'è stata, ma molto minima, quindi la cosa è ancora un po' così così. Però diciamo, quelli che pagano le tasse in America un pochettino ci pensano prima di fare questi finanziamenti. Dunque, quindi aumento di imposte, oppure come succede adesso, sono preda ai risparmi della speculazione finanziaria, che è l'altro aspetto di cui si parla poco e che invece Giussani ci ha studiato molto, no? Cioè il capitale finanziario ha necessità per sopravvivere di un continuo afflusso di denaro liquido, perché c'è il denaro fittizio, ma il denaro fittizio sta sulla carta, poi il denaro liquido, se uno vuole realizzare da oggi al domani o entro un'ora vendendo e comprando e rivendendo eccetera, ha bisogno di liquidità. E quindi la maggior parte della liquidità è fornita dai fondi pensione, è fornita da... Sì, vabbè, in Italia siamo ancora a livelli... Quelli americani, ci sono i fondi pensione, poi c'è BlackRock, ci sono questi grandi fondi, eccetera, eccetera, che hanno bisogno di questa liquidità. Quindi il grande boom del dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu causato proprio da questo, a parte la ricostruzione, ma anche dal fatto che c'erano riserve liquide inutilizzate e che il capitale fisso, cioè le macchine eccetera, erano rimaste ancora arretrate e quindi c'era molta possibilità di profitto. Oltretutto la manodopera costava poco, quindi... E questo è appunto il compito della guerra mondiale, sarebbe questo, cioè di risolvere la crisi capitalistica. Però ci vogliono anche gli attori di questa guerra, devono avere anche le forze per farlo, cioè essere... La Germania nazionalsocialista, che era in una crisi spaventosa, quella di Weimar, ci mise 6 anni per riarmarsi, no? Però non fece nessuna nazionalizzazione, non nazionalizzò niente, cioè anzi privatizzò. Però tutte le industrie, comprese quelle estere, c'era anche la Ford, eccetera, eccetera, dovevano produrre per la guerra se volevano fare affari. E quindi diciamo la riconversione industriale e quindi la guerra mondiale conseguente deve attraversare tutti questi gradini, fasi, eccetera, eccetera, se vogliamo veramente fare una previsione. Certo, non si può dire quando, però insomma i fatti stanno così. Vuoi dire una cosa? Vuoi dire una cosa ancora? Sì. Tu? Sì. No, volevo fare 2 o 3 appunti. Sparsi, condivido il discorso di Visconte. Parlare di guerra non significa che scoppia domani mattina. Ci sono dei tempi. Però abbiamo visto che negli ultimi anni questi tempi si sono accelerati. Quello che era l'indicibile un anno fa è diventato dicibile dal 24 febbraio. L'indicibile cos'era? Guerra. L'altro indicibile era guerra nucleare. Guardate che la stampa di Torino ha parlato di possibile guerra nucleare dal giorno 25 febbraio 2022. Perché insisto su questo punto? La seconda guerra mondiale è finita con la guerra nucleare. Non dimentichiamolo mai che è finita con 2 bombe atomiche tirate su 2 città e non su obiettivi militari. Gli americani hanno approvato nei mesi scorsi, è stato il penultimo dei miei articoli, la dottrina del first strike, cioè il diritto a colpire con l'arma nucleare prima di essere colpiti. E guardate che questa questione del nucleare non è cosa di poco conto, anche sulla base di quello che giustamente si diceva poco fa. Se non ho il tempo di costruire questa cosa, aggiorno una cosa detta da Visconte, attualmente gli americani, d'accordo con, mentre qualche mese fa c'era ancora una maggioranza, attualmente gli americani, d'accordo col finanziare ancora la guerra in Ucraina, sono meno del 50%. Dalle statistiche ufficiali. E tanto è vero che molti esponenti del Partito Repubblicano cominciano a mettere in discussione il continuare a sostenere la guerra. la guerra in Ucraina. Questa potrebbe essere una questione che spiega. Chi corre verso la guerra sa di non poter fare tutto in fretta e quindi si protegge col first strike. Questa è una cosa di cui bisogna tenere assolutamente conto. Sa che sarebbe difficile arruolare. È vero quello diceva Visconte. Molti soldati, molti giovani russi sono scappati. Stiamo attenti perché purtroppo io non leggo il russo. Le informazioni che ci arrivano su ciò che accade in Russia arrivano sempre filtrate da tutta la propaganda occidentale. Non ho simpatia per Putin, ma non mi spiego perché in Russia devono scappare in 300.000 e visto che sono stato a Genova nei giorni iniziali della guerra e i camalli mi dicevano che lì travestiti da donne erano arrivati un sacco di giovanissimi ucraini che erano maschi che scappavano dalla guerra, e ancora l'altro giorno Adriano Sofri, che è uno favorevole a finanziare l'Ucraina, armare l'Ucraina, sulle pagine del Foglio diceva sì, però certi video che ho visto, di quali video parlava? Quelli che sono girati in rete, in cui si vedono i soldati ucraini che vanno ad arruolare a forza i giovani nei locali e per le strade, la gente che reagisce e protegge i giovani. Quindi dobbiamo stare attenti, perché noi abbiamo una propaganda occidentale che ci dice gli ucraini sono tutti per la guerra, i russi sono tutti contro. Non è vero. Tanto è vero che Putin era già malato, moribondo un anno fa, doveva crollare 6 mesi fa e adesso, però tutti gli osservatori più obiettivi ci dicono che la società russa sta tenendo, che l'economia russa sta tenendo. Quella che non sta tenendo è evidentemente quella ucraina. Cambiamenti di governatori, cambiamenti di giornali a raffica negli ultimi periodi. C'è qualcosa che non funziona. Non funziona anche perché cominciano a mancare gli armamenti. È vero, la spesa militare deve ancora crescere, ha tempo di crescere, ha tempo di dar vita ad una parziale riconversione, e lo scontro non è affatto sospendibile alla data attuale. Non possiamo dire quando sarà il momento del countdown, ma sicuramente non è cominciato il conto per la pace. Io non mi accontento dei dati economici, scusate, questo devo proprio dirlo, perché c'è una forma un po' di economicismo, no? Poi nel valutare i fatti politici. Allora, c'è un fatto politico importante. La Seconda Guerra Mondiale vede uno schieramento di 3 alleati, il famoso asse Roberto, Roma, Berlino, Tokyo, che si creò un po' per forza. Hitler e Mussolini all'inizio non andavano tanto d'accordo, tutti e due non si fidavano del Giappone. Finirono insieme perché tutti colpiti dalle sanzioni. Fu un'alleanza forzata, contro cui si schierò gran parte del mondo, almeno di quello che contava all'epoca, no? Oggi abbiamo una situazione simile per 3 paesi su cui gli Stati Uniti stanno soffiando: Russia, Cina e Iran. Tutto quello che dice la Cina non va bene. Se non ve ne siete accorti, molti erano i paesi d'accordo a dialogare sul piano cinese, compresa l'India di Modi, e l'Iran è il paese degli animali. È chiaro che c'è già un'alleanza forzata possibile per un conflitto futuro, ma con una piccola differenza, che adesso il resto del mondo non si schiera più tutto con l'Occidente. E questo è un fatto che rafforza sicuramente il tentativo putiniano di non doversi ritirare né dall'Ucraina né tantomeno dalla Crimea, che ricordiamo, la Crimea è una parte, non sto dicendo che è giusto, non me ne frega nulla, ma è una parte vitale per la Russia, perché protegge il mare d'Azov ed è una delle poche vie di mare possibile per la Russia per accedere fuori, perché la grande questione è che mentre le grandi potenze imperiali sono state potenze marittime, Roma, la Spagna, il Portogallo, l'Olanda, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Russia è stata sempre, come la Cina, una grande potenza continentale, ma una grande potenza continentale con 3 possibili sbocchi al mare fino a qualche decennio fa: il Mar Nero, il Mar Baltico e Vladivostok, verso, oppure per 6 mesi all'anno, un tempo, poi diciamo qual è la novità, ne abbiamo già parlato in passato magari, Arcangelo, che dà sul circolo polare artico, che fino a qualche anno fa per 6 mesi all'anno era chiusa. Adesso da qualche anno le rotte artiche sono aperte perché non congela più l'Artico fino alle coste russe. Tanto è vero che, penso di avervelo già detto una volta, gli inventori della nave rompighiaccio erano stati russi. Adesso anche sulle rotte a nord non ce n'è più bisogno. È diventata una potenza marittima la Russia, no, deve giocare sui sommergibili. E questa la accomuna molto la Germania, che giocò le due guerre con una potenza sommergibilistica per uscire dall'imbarazzo in cui si trovava dal punto di vista delle navi di superficie. Quindi teniamo conto di tutti questi elementi che fanno, quando io dico che nella guerra c'è anche un elemento militare, c'è un elemento geopolitico e c'è un elemento politico, intendo questo. Ultima cosa, la Seconda Guerra Mondiale non è cominciata il 1° settembre del 1939, come dicono i maledetti libri di storia, è cominciata molto prima. È cominciata con l'avventura cinese in Manciuria, è cominciata con l'avventura italiana in Etiopia e ha avuto la sua prova generale con la guerra di Spagna. Io continuo a dire, stiamo attenti, perché la guerra in Ucraina è la prova generale della guerra che verrà. Se poi verrà tra 10 anni o tra 15, ma attualmente in queste condizioni di confronto, con tutte le necessarie spese che andranno fatte e non fatte, però ripeto, guardate che è vero che siamo il 2-3%, una Germania che riarma con 100 miliardi di euro, il Giappone che riarma con 200 miliardi, 300, e la Francia con 200 miliardi di euro, non sono notizie da mettere in fondo alla pagina dopo gli annunci mortuari. Queste sono le cose che noi in qualche modo dobbiamo seguire con attenzione. Poi possiamo anche augurarci che la guerra finisca, ci sia uno sconfitto, Zelensky si arrenda, Putin si è rovesciato. Io non ci credo, personalmente non ci posso credere. E quindi anche se si prolunga questa guerra, se si prolungasse, come probabilmente anche intento degli americani, lasciare che si prolunghi, indebolisca la Russia, indebolisca la Germania, rompa un po' tutto il fronte interno europeo. Se salta l'euro cosa succede, per esempio? Qual è una delle maggiori difficoltà che hanno l'economia europea adesso a spendere? Dipendere da un equilibrio monetario fondato sull'euro. Se si rompe l'Europa e salta l'euro e ognuno può di nuovo battere la propria moneta, cambia completamente il rapporto di spesa tra Stato e sue imprese. Anche perché al fondo della guerra, guardate, la guerra è veramente una brutta bestia. Fin dalla prima guerra mondiale si scoprì questa cosa meravigliosa per cui vendevo ai cittadini abbienti dei fondi, no, dei titoli di Stato. C'erano i manifesti in America, in Inghilterra, qui in Italia, compra i titoli di Stato. Il cittadino che aveva dei risparmi cosa faceva? Scommetteva sulla guerra. È chiaro che la guerra è anche un'altra grande scommessa. Non è cambiata molto dalla guerra degli Achei e dei Troiani. Chi vince prende tutto. Chi perde, perde tutto. Come è successo alla Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Come fu successo al Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Come è successo alla Francia e all'Inghilterra alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che hanno perso tutto l'impero coloniale nel giro di pochi anni. Questi sono anche i momenti di guadagno e di profitto per il capitale internazionale o per il capitale nazionale o quelle fette di capitale internazionale che si schierano contro un'altra parte di fetta di capitale internazionale. Ecco, io credo che queste questioni all'interno di un'analisi sulla guerra odierna e di quella che verrà vanno tenute tutte aperte. Sulle soluzioni poi per impedire la guerra, eccetera, ne parliamo quando le vedremo. Bene, adesso sia qui in sala poi, oppure per in collegamento, chi vuole fare domande o dire qualcosa, venga qua, quelli della sala e quelli del collegamento possiamo aprirlo. Non quelli in collegamento devono venire qua. No. Allora io mi aspetta. Mi riallaccio a quanto ha appena detto Sandro, per vedere una questione politica che ci interessa da vicino, cioè in Italia. Primo, noi arriviamo in questo momento dopo 2 anni di pandemia, quasi 3, e una specie di dittatura sanitaria militare, col generale Figliuolo, leggi eccezionali e così via. Quindi abbiamo avuto una trasformazione reale della nostra vita, militarizzata, con l'esercito che l'ha fatta da protagonista. Contemporaneamente, tutto il sistema sanitario ha proseguito sulla strada della distruzione del sistema sanitario, virgolette, nazionale o regionale, e sulla sua privatizzazione e monetarizzazione. Quindi abbiamo avuto in poco tempo un mutamento della nostra vita quotidiana che ci ha preparato alla situazione attuale di guerra. Perché in questo momento, al di là del fatto che abbiamo al governo la Marmaglia fascista e così via, e i suoi alleati cosiddetti liberali e soprattutto quel ridicolo partito Noi Moderati che fa ridere solo il nome, ma comunque, detto questo, abbiamo una militarizzazione della vita quotidiana. Prima di tutto abbiamo avuto la proposta logica, che non è fatta, è stata fatta dal fascistone, ma era già presente, la leva militare. Non si scappa. La leva era stata sospesa, verrà ripresa. Secondo, abbiamo la politica economica che tende a finanziare i fondi militari. Avete pensato alla figuraccia che hanno fatto, apparente figuraccia che hanno fatto Giorgetti e la Meloni sul superbonus, che in realtà il superbonus è stato tolto ai ricchi, cioè a chi aveva le case e le poteva ristrutturare a spese della finanza pubblica. Quindi molti degli elettori di questa gente si è trovata di colpo, le imprese edili, gli elettori, gli professionisti, gli architetti e così via, si sono trovati di colpo senza mezzi. E dove vanno questi mezzi? Perché questo colpo terribile a loro stessi? Perché c'è la questione del riarmo, che è anche il riarmo italiano. Noi parliamo della Francia, ma l'Italia non può restare troppo indietro, non può investire quanto la Francia, ma investirà senz'altro, ben più di quello che pensiamo. Poi sulle spese militari ci sono tutti i dati di, come si chiama, di Milex, ma soprattutto sono spese farlocche, nel senso che non abbiamo il vero bilancio delle spese militari, abbiamo le poste ufficialmente messe nel bilancio per spese militari che sono ufficialmente di 26 miliardi, in realtà dovrebbero essere di più già adesso, e comunque avremo degli enormi investimenti in armi anche in Italia. Quindi investimenti per le armi, investimenti per la leva e soprattutto campagna propagandistica verso la gioventù per la leva militare, per la spedizione all'estero. Non dimentichiamo poi che l'Italia ha il comando delle forze della NATO e del cosiddetto ONU in Iraq, ha il comando delle forze della FINUL in Libano e ha delle velleità di intervento in Africa. Cioè, lo dice la Meloni, ma lo diceva anche prima Minniti e così via. Quindi la nostra vita è completamente cambiata dal punto di vista politico e dal punto di vista economico-sociale. Si tratta di vedere come lottare contro questo mutamento velocissimo. sono state fatte alcune manifestazioni contro la guerra. Sabato scorso c'era una manifestazione per la guerra, quella di Landini, che era una manifestazione per la guerra, per l'Ucraina, cioè per armare, per sostenere. E di conseguenza è una manifestazione che vede la mobilitazione di una parte del mondo politico, quello che ne rimane, e del mondo sindacale per la guerra. Ci sono state poi le manifestazioni di Genova e di Milano, Roma e Bologna. Ora, le manifestazioni di Genova, di Roma, di Bologna e di Milano sono state fatte in forma apparentemente sindacale. E uno degli slogan era: abbassiamo le armi, difendiamo il welfare. Sacrosanto, però il welfare dove è andato? C'è il welfare in Italia? Abbiamo uno Stato democratico basato sul sistema sanitario nazionale, su un certo sistema scolastico? Non l'abbiamo più da tempo. Perché? Perché questo Stato si è trasformato in uno Stato reazionario puro, senza parlare delle questioni carcerarie e della vicenda di Alfredo Cospito, eccetera. Uno. Due. Dobbiamo opporci alla guerra dicendo: vogliamo ritornare al bel tempo antico? Il bel tempo antico, come hanno detto Visconti e Sandro, non esiste più. È in mutamento nettissimo. Quindi, se dobbiamo dire guerra alla guerra, dobbiamo dire guerra sociale contro la guerra degli stati, dovremmo dire guerra al capitale. Troppo avanti apparentemente adesso, perché non c'è questo movimento di massa. E se il movimento di massa rimane a livello sindacale e non si eleva a un livello politico contro il sistema in crisi, il sistema capitalistico in crisi da decenni, allora una parte del proletariato potrà anche andare, come è andato in passato, in un primo tempo, a sostenere le avventure militari schifose di questa classe dominante italiana che, ricordiamoci, porta sempre in guerra il popolo e poi esce dall'altra parte, cioè entra dalla porta, esce dalla finestra e salva la borghesia italiana, la sua collottola, a scapito però del proletariato italiano, dei giovani e così via. Noi qui in Italia abbiamo quindi una situazione da affrontare politicamente. Dobbiamo armarci di una idea precisa, che è quella che Sandro e Visconti hanno cercato di mettere in luce, cioè in tempi così accelerati anche le nostre idee e le nostre pratiche devono essere mutate. Usciamo dall'apparente sindacalismo, chiariamo almeno politicamente qual è la via da seguire e attacchiamo un potere marcio per costruire un potere che lo sostituisca in nome di chi lavora. Vasto programma, diceva De Gaulle, vabbè, vasto programma, ma la crisi è così vasta che non è che abbiamo molte cose. O ci adeguiamo a questa crisi del capitale, che è una crisi anche politica, o se no andiamo, cioè moriamo con lui. Poi, per quanto riguarda infine la questione delle tattiche militari, sono tattiche militari in cui si utilizzano dal coltello alla bomba nucleare tattica. Nessuno spavento. Il capitalismo oggi non ha a che fare con 2 miliardi di popolazione, come durante la prima guerra mondiale, 1,5 miliardi e magari 2,5 miliardi nel 40-45. Abbiamo 8,5 miliardi di popolazione e una parte dei capitalisti è così violenta, pur di restare al potere, che ne può anche eliminare. Fanno anche questi conti e li fanno i loro strateghi militari, una parte della popolazione mondiale. Siamo di fronte a questo sistema. Però non sindacalizziamoci, non opponiamo al nuovo schifoso che avanza un vecchio radioso che non esiste più. Vieni. Allora. Non ho appunti e vado a braccio. C'è la serata che doveva in qualche modo accentrarsi sulla questione della guerra e quindi cosa ne pensiamo della guerra. Allora, un po' stiamo forzando tutto il dibattito su un aspetto che potrebbe essere quello del nucleare. Ma io condivido un po' l'analisi di Visconti che il nucleare, secondo me, dovrebbe essere un aspetto da come ultima analisi, non come l'analisi centrale sul dibattito di questa sera, perché le guerre sono prodotte, diciamo, dal sistema capitalistico. Allora, noi abbiamo dei sistemi come la Fondazione Agnelli e come altre questioni che discutono a tavolino le guerre da fare, che possono essere da alta intensità a bassa intensità, e quindi li programmano. Quando è successo la guerra del Kuwait ne avevano previsti 55, poi l'analisi gli è scappata di mano che siamo arrivati a 70, no? Quindi quando noi discutiamo di guerre, le guerre vengono analizzate e quindi vengono programmate, perché comunque serve al capitale. L'aspetto che manca dal ragionamento è quanto costa al sociale e quanto costa a tutti quanti noi una guerra programmata. Questo è l'aspetto fondamentale, quindi qua Visconti che ci fa l'analisi di queste discussioni è fondamentale, perché andare a distruggere il pianeta perché Marte non ce l'abbiamo ancora mi pare un po' una roba che non va, che mi sfugge come ragionamento, e quindi mi trova un po' in disaccordo, no? È vero che può essere programmata una guerra nucleare in cui si individua delle zone particolari in cui andare a distruggere un territorio, ma mettere come analisi la distruzione di tutto il territorio, allora il capitale poi cosa ci guadagna? L'aspetto poi importantissimo, che a noi cosa ci costa ogni guerra? A noi ogni guerra, anche quella che stiamo facendo, che stanno facendo in questo momento, ci costa scuola, ci costa salario, ci costa tutta una serie di questioni che comunque sono a deprimento del sociale, sono a deprimento dei lavoratori. Questo è quello che noi dobbiamo combattere. Tu vuoi fare la guerra? La guerra a noi non ci interessa. C'è poi la questione del pacifismo, è un altro aspetto della questione, ma chi decide la guerra la decide sulle spalle di tutti i lavoratori, e quindi i lavoratori che in qualche modo si possono anche schierare per la guerra, perché comunque li porta momentaneamente un profitto, perché nel 70, quando c'era la guerra in Vietnam, i lavoratori delle imprese belliche hanno votato a favore della guerra, e quindi non è detto che oggi, se ci fossero dei grossi profitti all'interno di una catena catena di guerra, quei lavoratori non votassero. Oggi, se il sindacato CGL, CGIL, UIL dicesse di fare una scelta di questo tipo, non voterebbero per la guerra. Quindi stiamo attenti quando discutiamo di questi problemi. Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, la questione della guerra non deve incidere sulle nostre condizioni di vita. Questo è fondamentale rispetto a ciò che oggi sta accadendo. Quando poi parliamo dell'invasione che ha fatto la Russia, beh, voglio dirti, se noi dovessimo discutere di questo, dovremmo decidere che le frontiere non dovrebbero esistere. Gli stati non dovrebbero esistere, questo è fondamentale, perché finché ci sono gli stati ci sarà sempre una competizione, perché la competizione nel andare ad acquisire territorio in cui andare a vendere i loro prodotti. Questo è una questione da tenere sempre per noi, almeno che abbiamo una visione libertaria. Finché ci sono gli stati e hanno deciso che gli stati hanno le frontiere, beh, le frontiere portano a queste conclusioni, che ci saranno le guerre, perché comunque ci sarà sempre all'interno delle nazioni, all'interno di un'idea capitalistica, l'andare a invadere il territorio perché devono vendere i loro prodotti. Quindi andiamo sempre ad analizzare cosa sono le frontiere e perché nascono le guerre. Grazie. Ecco, se qualcun altro vuole intervenire, io mi permetto di fare semplicemente un suggerimento, cioè cercare di intervenire magari con qualche domanda relativa alle esposizioni che sono state fatte, perché l'elenco dei desiderata sono infiniti, ma noi cerchiamo di ragionare attorno allo stato dell'arte che cerchiamo di leggere. E quindi dentro le due relazioni che noi abbiamo potuto sentire non vi sono campi da scegliere dentro queste due relazioni, ma bensì sono state entrambi contributi per cercare di ulteriormente delineare, capire, approfondire il momento che stiamo vivendo, in modo particolare rispetto alla questione della guerra. Aggiungo semplicemente una cosa per dare un minimo anche di ottimismo dentro a tutta questa questione, nel senso che la gente non vada a casa dicendo ma come finirà, che fanno fuori 3 miliardi di persone con le armi convenzionali o le faranno fuori più velocemente con qualche colpo di bomba atomica. Allora, noi ritengo che tutto questo processo che qualcuno prima ha definito che inevitabilmente dovrà e si evolverà per tappe, confidiamo che dentro queste tappe ci sia in alcune zone, e prevalentemente le zone che mi riferisco in questo caso credo che siano ancora una volta l'Europa, perché attenzione, non si è voluto dire una cosa, però questa guerra ha anche una cifra importante da sottolineare, che è una guerra contro l'Europa, o perlomeno di quella che dovrebbe dovuto essere. Questa è una guerra che si svolge nel mercato più ricco e pagante del mondo, fino ad oggi. Però dentro questi passaggi che sono stati delineati, che potrebbero portare a un'estensione di questo conflitto, a una generalizzazione, dobbiamo anche confidare che, siccome appunto andranno a colpire condizioni di vita dei lavoratori, dei proletari, del mondo, e in questo caso in un mondo particolare, in questo caso il mondo dell'Europa e di là il mondo degli Stati Uniti, dove insomma tornare indietro a condizioni di vite precedenti non so se verranno accettate senza reazione, ecco. Sì, vieni qua. Beh, complimenti per l'iniziativa, almeno ci sono le idee un attimino più chiare. E in questo milione di notizie che si leggono, mi ha colpito una notizia che ha detto l'amministratore delegato dell'Enel a un giornale tedesco. Mi ha detto: quest'anno noi siamo salvi perché i depositi di gas sono pieni grazie al gas russo. Il prossimo anno non ci sarà più il gas russo. Quindi lui mette addirittura in esistenza, come è sull'ultimo intervento che ha accennato, la stessa esistenza dell'Europa. Quindi voglio sapere voi cosa ne pensavate. Grazie. L'esperto energetico può rispondere. È un casino. Posso fare una domanda anch'io? Sì, poi sì, dai, così mettiamo insieme, tutti e due, via, dai. Mettiamo insieme. Sdrammatizzare, nel senso che volevo dire questo, che è vero, c'è la guerra in Ucraina, fa molto impressione perché è vicina, ma non dimentichiamoci che ci sono state altre guerre, tipo non so, in Afghanistan, in Iraq, anche quella del Vietnam, e di morti ce ne sono stati parecchi. E ovviamente, cioè, anche in Libia non sappiamo quanti morti hanno fatto, non Gheddafi, l'Occidente. Cioè, questa guerra qui, adesso non so quanti morti sono centinaia di migliaia, d'accordo, ma non è, cioè, è, secondo dal mio punto di vista, è possibile che si arrivi a una tregua. Adesso l'opzione cinese, casomai voi dite, è già stata accantonata o non possono fermarsi, non si può arrivare a un compromesso. Se la domanda è questa, secondo voi, non si arriverà a un compromesso? È possibile arrivare a una tregua, voglio dire, non alla fine della guerra, eccetera? Questa qui è la domanda. Beh, no. Se vuoi dico subito una cosa su questo, poi è evidente che in questo caso bisogna dire gli Stati Uniti questa tregua non la vogliono. Nel momento stesso in cui cominciano a dire che la Crimea deve essere parte dell'Ucraina, significa far continuare la guerra. Stati Uniti. Blinken l'ha detto. Mentre qualche tempo fa ancora erano contrari, adesso si comincia ad andare in questa direzione. Cioè, noi non possiamo ignorare questa affermazione, non è che l'ha fatta, non sono le cose che dico io, se parla Blinken. Quando parla Biden, nonostante il Pentagono è molto più pacifista di Biden da questo punto di vista, ma Biden è il presidente degli Stati Uniti, è quello che va in Polonia e infiamma la Polonia. Cioè, ci sono dei passaggi, per questo dico, stiamo attenti al ragionamento soltanto economico. Perché ci sono passaggi che sono politici, che sono emozionali, creano campi di dominio mentale, ma non perché... Io, quelle storie lì per cui le guerre sono programmate, lo dico apertamente, non ci credo nemmeno morto. Alle guerre ci si arriva, fanno parte del modo di produzione capitalistico, sono inevitabili, possiamo programmare un'operazioncina per togliere Saddam dal Kuwait, ma quello che si può sviluppare a partire da un intervento russo in Ucraina e da un possibile momento di confronto con la NATO che potrebbe esplodere su quei cieli in quelle situazioni, non possiamo escluderlo, non occorre che sia programmato. Dice, no. E da questo punto di vista però questa è una guerra che dal punto di vista americano ha una grossa funzione nei confronti dell'Europa germanica, cioè di quell'unità europea che è stata concentrata intorno alla figura portante della Germania. Guardate che finisce la Merkel come valore simbolico, perché nessuno conta più di... però come valore simbolico finisce la Merkel, arriva Scholz, c'è una guerra e gli equilibri si ribaltano. La Germania è in profonda crisi perché tutta la politica di, chiamiamola così, collaborazione con la Russia, da cui derivava anche il suo rifornimento energetico, è finita. E guardate, salta Nord Stream 2. Il giorno dopo qualche deputato ucraino e polacco ringrazia gli Stati Uniti e si mette a tacere. Seymour Hersh tira fuori, guardate, abbiamo le prove che il Nord Stream è stato sabotato dagli Stati Uniti e tutti negano, i giornali non ne parlano. Seymour Hersh è quello che ha tirato fuori Milley e un sacco di altre cose che sono state negate subito all'epoca dal Pentagono, dalla Presidenza. Quando parla Seymour Hersh non parla un complottista di qualche genere, un filo sovietico, parla un giornalista che sicuramente le fonti le controlla e avrà anche delle fonti molto più importanti, perché insomma sappiamo come funziona. Qui in Italia siamo ormai abituati a un giornalismo cadaverico che non fa più inchiesta, non dice più nulla. Da altre parti un po' di coraggio c'è ancora, no? Quindi queste cose qui teniamone conto. L'Europa esce indebolita, esce divisa. La Polonia è per adesso il paese su cui gli Stati Uniti puntano di più. E guardate, ci sono due paesi che hanno enormemente bisogno dell'appoggio atlantico. Uno è la Polonia, l'altro è il governo Meloni. E il governo Meloni sa benissimo di avere meno carte da giocare nell'Europa tedesca che non sostenuto dall'atlantismo di Biden e della NATO. Questa è politica antieuropea. Io non è che sia un difensore dell'Europa, ma dobbiamo vederle queste cose qui. Non possiamo far finta che sono cose solo casuali, che Meloni sta in piedi perché ha il 12% dell'elettorato effettivo, cose di questo genere. Ci sono forze politiche che agiscono in questo modo, che permettono di prendere anche o non prendere determinate decisioni. E quello che accade in Ucraina non è minimamente paragonabile a quello che può essere successo in Iraq o da altre parti. Siamo nel cuore. No, siamo nel cuore. Non ci impressioniamo di più. No, non ci, non mi impressiona affatto. Non mi impressiona affatto. Ma non è stato messo in dubbio nessun equilibrio di tale portata. La guerra afghana al massimo ha fatto bene i cinesi che si sono accaparrati tutte le terre rare dell'Afghanistan. Come la guerra in Iraq ha fatto bene all'Iran, che ha tirato l'Iraq nella sua sfera di influenza dal punto di vista politico, almeno governativo, ma non ha cambiato un equilibrio della portata di quello che può essere cambiato da una guerra in Ucraina in cui vengono rimessi in gioco equilibri europei e nazionali e capitalistici internazionali che erano dati per assodati. Ecco. Infatti il problema di questa guerra è che anche una controparte dall'altra parte, Taiwan eccetera, cioè abbiamo un equilibrio estremamente frantumato. No, vi dico solo, siccome ci sono degli interventi in collegamento, scusa, c'è Pietro Basso che vuole intervenire, ha facoltà se vuole. Scusa. Mi pare, giusto per dire che sono, sottolineo 2, 3, 4 volte quello che sta dicendo Sandro, diciamo, no, devo dire non mi sembra molto ascoltato, perché paragonare questa guerra alle altre guerre appena fatte è completamente fuori dalla realtà, compagni, completamente fuori dalla realtà. Perché in questa guerra, che è cominciata non a caso dopo la ritirata dall'Afghanistan, eccetera, la Russia si gioca molto, ma gli Stati Uniti si giocano persino qualcosa in più. È una guerra vitale per gli Stati Uniti. Vitale per l'alleanza Russia-Cina, perché la Cina possa, diciamo così, anche accrescere il suo potere. È vitale per gli Stati Uniti d'America, che insieme cerca di rovinare la Russia, i rapporti Europa-Cina e l'Europa. Eppure affronta queste guerre in una condizione di debolezza e di divisione interna incredibile. È tutto un ordine che sta crollando, compagni. Ho sentito cose che girano intorno alla questione fondamentale. Come si fa a non vedere che c'è una somiglianza impressionante anche tra la spartizione della Polonia nel 1939 e la spartizione di fatto dell'Ucraina di questi anni? L'Ucraina è spartita di fatto. Poi chiaramente gli Stati Uniti vogliono prendersi anche il Donbass e anche l'Europa al seguito, molto molto al seguito. La Crimea e la Russia farà di tutto per consolidare queste conquiste militari. Non può non fare di tutto, così come gli Stati Uniti non possono non fare di tutto per cercare di impantanare la Russia, ma devono anche colpirla sul suo territorio e stanno cominciando a colpirla sul suo territorio. E allora o pensiamo veramente che si tratta di schermaglie come in una specie di videogame, oppure teniamo presente tutta una serie di implicazioni sociali, politiche e naturalmente militari. Ma c'è ancora gente, anche tra i compagni, che è abbacinata dal superpotere del dollaro, ma questo superpotere è stato già messo in crisi dalle decisioni prese negli ultimi anni, non dall'Iraq, non da Gheddafi, ma dalla Cina, dalla Russia, dall'Arabia Saudita, dall'India, che firmano contratti a raffica con le proprie monete. Cioè, è incredibile come non si voglia capire che questa guerra è un punto di non ritorno dello scontro generale per una ridivisione del mondo. È incredibile tra i compagni. Tutto qui. È incredibile. Immaginarsi se poi ci si può predisporre con questa minimizzazione degli eventi, per cui alle volte la Russia sembra l'Albania, secondo alcuni. Poi sì, è vero, c'è un buon sviluppo dell'industria militare, ha i missili più veloci, più di lunga gittata degli Stati Uniti d'America. E come li costruisce? È assurdo, compagni, è qualcosa che veramente, permettetemi di dire, si stenta a credere quello che si sente. Figurarsi poi se con questa minimizzazione degli eventi ci si potrà impegnare seriamente contro questa guerra e contro la catena di guerre che prepara. Ho finito. Scusate la forma polemica, però è incredibile. Penso che erano i miei compagni, ho fatto una domanda. Secondo voi è possibile o no? C'è altro, qualcun altro? Anche Monaco fu una tregua. E poi un anno dopo. C'è qualcuno? Non so se Valeria vuole intervenire, non ho capito. Si è mosso qualcosa. Se Valeria vuole intervenire può farlo. Adesso c'è la guerra. se voglio parlo di una tregua, di una guerra in corso. Monaco mi sembra sono aperto. La Spagna. Eh? La Spagna. E la Spagna c'è spacciata. Come adesso, questa è una guerra civile. Quella in Ucraina è una guerra civile. Non è che sia. No. Qui c'è nell'Occidente la gente sarebbe disposta a, che mi sembra una, che rimaniamo, cioè uscendo un po' dalla geopolitica, rimanendo un po' invece su, su una questione fondamentale per noi, perché della geopolitica tutto sommato la subiamo e basta, giusto? Mentre invece l'idea è anche quella di capire noi come ci collochiamo, e quindi mi sembrava che Marco, e anche forse lui, cioè l'esercito di leva, siamo sicuri che ci sarebbe qualcuno che, cioè, non lo so. No, no, beh, relativamente dell'Ucraina, relativamente vivo in Italia, le contraddizioni maggiori che posso comprendere sono quelle italiane, quindi la domanda che vi faccio è, ma noi in Italia, se invece che il 2% diventa il 10%, ammesso e non concesso che ci siano industrie in Italia che siano capaci di produrre il 10% del PIL per una questione militare, perché nella prima guerra mondiale c'erano delle fabbriche che in Italia adesso non esistono più. Cioè, per fare le armi ci vogliono le industrie capaci di farle, ok? Ma le armi siamo ancora capaci di farle, calma. Dalla Valtrompia alla Leonardo le armi si producono ancora. Il 10% del PIL che corre, ok? Cioè, non c'è più la Paromeo, non c'è più la Fiat, servono 50.000 operai, non è più così, Cioè, la Valtrompia fa sulle, sì, fa sulle armi, ma fa su per quanti? Facciamo dei, se riuscissimo a avere dei dati su quanto fosse possibile riconvertire l'industria europea e americana, l'hai detto tu stesso prima, cioè, se triplicano. No, l'hai detto tu prima, se triplicano il numero di missili possibili da inviare, arrivano a quello che i russi in un giorno fanno? Cioè, stiamo parlando questo, di riconversione? Mi sembra un po' poco per pensare di fare dei numeri, come dicevi tu, della prima e seconda guerra mondiale. Mentre invece, secondo me, la cosa più interessante sarebbe capire, ma siamo convinti... Non so quanto avete sentito e quanto no, allora. No, veramente non abbiamo sentito niente per il momento. Perfetto, allora ricomincio da capo. Cazzo, che... scusate la perdita di tempo, non mi ero accorto. Domande per Sandro. Uno, la questione dell'atomica tattica, che, della quale tanto si parla come se fosse, vabbè, cosa vuoi che sia, buttiamo una bombetta in una zona circoscritta. No, la questione dell'atomica tattica intanto si differenzia da quell'altra solamente, fondamentalmente perché può essere portata con vettori più agili, cioè non ha bisogno necessariamente di missili, può essere operativa anche con aerei o perfino penso con droni. Questo significa che è vero che la guerra atomica non è di per sé programmata, ma è programmata la sua possibilità, tanto che ci si fa carico di avvertire, di abituare l'opinione pubblica mondiale al fatto che possa essere usata. E mi sembra già, cioè io sono appunto più pessimista ancora, se possibile, di Sandro. Secondo, sempre per Sandro, ci sono già due fronti aperti, questi già programmati, uno in fase di programmazione piuttosto avanzata, che è quello dei Balcani, Kosovo, Bosnia Erzegovina, dove già si pensa a un allargamento della guerra, perché evidentemente se ne ha, come si può dire, aprire più fronti, non capisco come possa essere conveniente, ma chiaramente lo è. Il secondo fronte è quello del come battere la Russia, militarmente difficile sul campo, giusto? Ma è anche difficile togliere consenso interno, perché a quanto pare Putin ha tuttora consenso interno, e dei tre pilastri almeno due, che sono quello del consenso degli oligarchi e quello dell'esercito, resistono. di quello popolare difficile sapere, ma c'è un'altra possibilità, che è quella di fare perno sui separatismi, sulla frammentazione della Russia, che otterrebbe non solo un indebolimento della Russia e una sua sconfitta reale, ma unirebbe i due, cioè la porzione interessata è quella del Caucaso, quindi l'unione dei due mari e delle risorse dei due mari, Caspio e Mar Nero. Chiaramente non credo sia una cosa all'ordine del che possa avvenire in 2 o 3 mesi, ma è chiaramente già programmata. Ci sono i separatisti surriscaldati e c'è evidente soprattutto appoggio americano e perfino europeo della borderline, come la chiamo io, che chiaramente rappresenta le voci di molti, ai preparativi separatisti nel Caucaso. Domanda invece per Visconte. La questione della il costo sociale della guerra, che non è solo la sottrazione di investimenti alla salute pubblica, alla scuola, alla prevenzione e via di seguito, è anche la deindustrializzazione, che comporta un impoverimento molto più generalizzato e evidentemente questo non può essere che non sia previsto o prevedibile. C'è una modificazione strutturale, almeno possibile, o in via di formazione, dell'evoluzione capitalista. Finito, scusate la perdita di tempo del mio silenzio. Rispondo alle due domande di Valeria. Beh, la prima sull'arma nucleare hai detto tutto tu, insomma, perché quando si paventa l'utilizzo dell'arma nucleare, una cosa che fa molta paura e non si vuole accettare, mentre invece ormai fa parte della nostra realtà, e non, questo non vuol dire mettere il nucleare al centro dell'analisi, ma dire guardate, è una realtà possibile, mentre per anni abbiamo detto no, non è possibile, eccetera, eccetera, dall'inizio di questa guerra si è cominciato a parlare, e appunto si parla di nucleare, di arma nucleare tattica locale, ma si parla anche dei missili di cui parlava prima Pietro. I più veloci sono quelli russi, che possono arrivare in poco meno di un'ora negli Stati Uniti o cose di questo genere, quindi evidentemente i calcoli sono stati fatti. Quindi è chiaro che quella possibilità c'è, fa così paura che anche i compagni non la vogliono accettare, perché non siamo disposti ad accettare il capitalismo nella sua più intima essenza. Una struttura che può arrivare a distruggere tutto. Noi non ci rendiamo conto di cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale. Noi non ci rendiamo conto che in una notte, in un bombardamento in Giappone, gli Stati Uniti hanno fatto 265.000 morti, più che con le armi nucleari. O a Dresda, adesso si parla di bombe termobariche russe, cioè cosa sono? Che sviluppano un grande calore che brucia l'ossigeno. A Dresda, dopo una settimana di bombardamenti, a 10.000 metri d'altezza, per il calore sviluppato dagli incendi nella città, bruciava l'ossigeno e la gente, i civili, nascosti nelle cantine, morivano soffocati perché mancava l'ossigeno. Ed esplodevano le caldaie nelle cantine per il calore che c'era, e la gente che si era rifugiata in cantina finiva bollita. Hai fatto bene, è una merda il capitalismo. E per affermare i suoi diritti nazionali o locali è disposto ad usare qualsiasi cosa. Di questo dobbiamo renderci conto, per sapere che nemico abbiamo davanti, e non in qualche modo attenuarne le capacità. Se non ci sono le industrie, Stiamo attenti, perché qui facciamo conto sull'Italietta schifosa che conta come il 2 di picche nel panorama internazionale. Sono gli Stati Uniti che stanno portando a casa gli investimenti per rilanciare investimenti sul territorio statunitense. Ho detto prima, il Giappone che porta a casa l'industria di microchip e non le lascia più in Cina. Ma oggi costruire microchip significa anche sostenere l'industria militare. Il microchip è mica quello del telefonino, soltanto. Dobbiamo smetterla di ragionare in questo modo, perché una cosa avvenuta è data per sempre. Le cose cambiano di nuovo e cambiano rapidamente. Quella che inizialmente era una lieve discesa, poi un piano inclinato, sta diventando un precipizio. Qui in Italia siamo una società vecchia, ci sono pochi giovani, c'è poca reattività. Il lavoro se n'è andato, potrebbe tornare, ma non è questo il centro. Noi stiamo discutendo qui perché siamo in Italia e potremmo essere travolti da questa cosa. Siamo anche in mezzo al Mediterraneo, dove i russi stanno spostando un sacco di navi di sommergibili. Rischiamo di finire bolliti a livello nazionale senza aver sparato un colpo. Non che con questo voglio un bel esercito forte. A proposito degli arruolati, uno dei problemi dell'Occidente che può spingere l'Occidente a fare il primo passo verso il first strike è proprio l'Occidente, intendo gli Stati Uniti, la NATO, i paesi che contano, non questa merda di paese in cui viviamo. È dovuto al fatto che non c'è più la stessa disponibilità, certo, ad andare a combattere per la patria. Ci raccontano dei russi, ma i russi vanno. E non c'è, non è vero che solo Wagner. Richiami da 300.000 soldati alla volta, non sono pochi per una nazione che ha già sotto le armi 1.100.000 soldati. In Italia, sotto le armi, quanti soldati abbiamo? Abbiamo più ufficiali e marescialli che soldati semplici. Però se provassero a ruolare in Italia, credo che ci sarebbero delle resistenze. E anche gli Stati Uniti avrebbero delle difficoltà ad ingrandire rapidamente il loro esercito. Non so in Francia e in Germania. Ma non facciamoci dei calcoli sbagliati. Quello che hanno provato i russi e i russi non stanno perdendo la guerra, smettiamo di raccontarci questa palla, che ci piacciono o non ci piacciono. Hanno testato il terreno in tutti i modi e hanno visto che l'Occidente non è pronto adesso a fare la guerra sul terreno. Non li mandi i soldati in Occidente, l'Occidente in Ucraina. E questo per i russi, dopo la sconfitta in Afghanistan, è già un momento di forza. Non ridiamo dietro i carri armati russi distrutti, senza benzina, le barzellette. La prima ondata russa in Ucraina è stata fatta con mezzi vecchi e stravecchi. Lo dicevano anche i generali che commentavano. Poi li hanno fatti andare via dalla televisione italiana, i pochi generali che ragionavano con la testa. Come vanno questi mezzi vecchi? Certo, bisognava testare il potenziale di risposta dell'avversario. Non gli mando i carri armati migliori. La Wagner è stata tenuta in disparte, poi è stata usata per l'Azovstal, a Mariupol. Adesso è diventata truppa di prima linea per Bakhmut, perché lì probabilmente la Russia ha avuto qualche difficoltà a far combattere i soldati dell'esercito e adesso, mentre si sperava, guardate che già nella prima guerra mondiale gli inglesi pensavano di fare la guerra in Francia con i corpi speciali. Poi hanno dovuto passare anche loro la leva obbligatoria, perché non bastavano i loro fucilieri, i loro addestrati, eccetera, ad andare in trincea nella prima guerra mondiale. La stessa cosa succederà adesso. Non è tutto programmato a tavolino. Quando si comincia a scivolare lungo quel percorso, a scegliere, a fare, e poi quello che viene, viene. E viene la guerra. E vengono i massacri. E noi continuiamo a sentire soltanto o la propaganda filo occidentale che ci conta un sacco di ballo, dicevo prima a tavola, con i russi che adesso avrebbero le streghe che fanno i riti in prima linea per i soldati. Ma vi rendete conto di cosa ci raccontano sui russi? Non ho nessuna simpatia per Putin. né per i suoi generali, ma non raccontatemi quel, perché se mi raccontate quelle storie lì mi state riempendo le orecchie e gli occhi di merda, nemmeno di salame. Da questa guerra dovremmo cominciare a guardare altre cose. Forse l'aviazione non è più così determinante, questo è un punto importante da capire, ancora determinante come nella seconda guerra mondiale, l'aviazione o no? Le tecnologie utilizzate sono tutte ad alto costo o basso costo, perché alcuni droni sono molto cari, ma alcuni droni costano poco. Cosa succede in una guerra di questo genere? Chi è che ha i droni a basso costo? Chi è quelli ad alto costo? Perché più costa la tecnologia militare, più si stenta a mandarla al fronte. Perché si diceva prima a tavola, ci sono droni da 2 milioni e passa di dollari, e quelli vengono mandati, fanno fuori il capo di Al-Qaeda di una certa zona e funziona. Ma non lo mando in prima linea a combattere con altri droni. Mentre invece il drone iraniano, che costa molto meno e comunque funziona per far danni, ne posso buttare a centinaia sulle città nemiche. Vogliamo ragionare in termini militari o vogliamo ragionare soltanto in termini pseudopolitici? Perché la guerra si fa anche con i militari, con i mezzi, con quello che c'è. Queste sono cose da cui non possiamo esimerci. Pensiamo che tutto vada avanti come prima, ma il prima non c'è già più. È da parecchio tempo che non esiste più questo prima. Questa è la cosa che mi attanaglia, tra cui la possibilità di arrivare a un certo tipo di risposta militare di un certo tipo. Che poi si possono portare a casa degli investimenti, rilanciare degli armamenti, questo è tutto da vedere. Non siamo qui con la sfera di cristallo, ma dobbiamo vedere almeno quello che sta succedendo, quello che è successo, e da questo trarne qualche previsione. Se vogliamo pensare tranquillamente che tutto va avanti come prima, che gli Stati Uniti dominano ancora il mondo e che anche se non ci piacciono sotto il loro ombrello stiamo bene, pensiamolo, ma vi assicuro non è più così. C'è Francesco? Doveva finire Emilio però, eh? Sì, era chiaro abbastanza il nome. Dovevi finire? Non so. Ma vieni qua, cosa? È l'arbitro. Mi sembrava c'era la domanda, era chiara, del tipo, rimanendo sul nostro orticello banalissimo, diciamo, del italiano. Vedere se poi c'è... Se sta lì, eh? Vai. Prima lì. Io volevo partire un attimo dalla fine dei discorsi. Si è parlato di pericolo nucleare, si è rappresentato in un certo modo. Allora, io non ho alcuna fiducia che Biden, Putin, eccetera, possano salvarci dal pericolo nucleare, questo, ci si arriva come le altre cose. Ma vediamolo anche in altri termini, gli analisti borghesi stanno ponendo delle altre cose, oltre a quello che è il nostro immaginario. Stanno ponendo, io non so se sia vero, perché quando l'ho letto non ho elementi per dire, ma dicono che i russi, e intendendo per i russi non la gente comune, ma i comandi militari si stanno convincendo che se loro lanciassero delle bombe atomiche, nucleari tattiche in Ucraina, l'Occidente non risponderebbe, e dicono anche che le manderebbero in zone che non sono quelle dove si coltiva e non sono quelle delle città, ma si manda un avvertimento per far capire che aria tira. Adesso, solo che si faccia questo discorso, vuol dire che è stato introdotto il pericolo nucleare. Inviterei, ricordiamoci, guerra del Golfo, la prima, il comandante in capo Schwarzkopf aveva l'opzione di lanciare sull'Iraq le bombe nucleari tattiche. Stanno da decenni lanciando i proiettili a uranio impoverito. Io non penso che noi possiamo confidare nel fatto che il capitalismo non lo faccia. È contro i suoi interessi. contro la sua sopravvivenza all'ultimo ragionamento. È vero, ma il capitalismo non ragiona così. Il capitalismo va avanti per logiche e per dinamiche, e noi dobbiamo capire con quello che si è aperto che guerra, ambiente, sopravvivenza della gente, il capitalismo sta ponendo per la prima volta nella storia la possibilità della fine dell'umanità, non del proletariato, dell'umanità nel suo complesso, che solo il proletariato possa impedirle, un altro discorso, ma si sta ponendo questo. C'era un'altra questione che è stata sollevata, molto importante, di cui ovviamente qui che siamo in campo di guerra non si parla, che sono quelli che non vogliono fare la guerra in quei paesi, e ce n'è più di quanti pensiamo, perché dalla Russia sono scappati in forse qualche centinaio di migliaia, non si sa esattamente, sono in Armenia, in Kazakistan, in Kirghizistan, così via, ma sono scappati anche dall'Ucraina, si sa poco, questo. Ma la cosa importante è che dall'inizio della guerra c'è addirittura anche una raccolta di firme, se volete la possiamo mettere anche sul sito, è molto brutta, però c'è, per cui si vuole chiedere quello che non è un diritto attuale. Chi non vuole fare la guerra è un maschio in età di leva, che è ucraino, russo, bielorusso, non lo tiene alcun tipo di rifugiato qui in Italia. Viene preso e rimandato indietro se trovato. Questa è la situazione. Noi parliamo che i russi, i bielorussi, siete suoi amici, però se arriva qualche disgraziato che giustamente non vuole andare a combattere o che diserta, viene preso e rimandato indietro, né più né meno. Penso che sia una cosa fondamentale nelle cose che possiamo dire. Poi chiudo molto velocemente. Secondo me c'è da capire, almeno è quello che io penso, è cambiato qualche cosa, ma qualcosa di molto grosso. Noi siamo entrati nella fase della crisi generale dell'imperialismo e del capitalismo. Il capitalismo non è più in grado di dare risposte all'umanità in termini di riproduzione della propria esistenza, perché ci dà precarietà. In termini di pace ci dà guerra, siamo entrati, in termini di ambiente lo sta distruggendo definitivamente, ci leva il futuro. Quello che è avvenuto, il punto di svolta, è stato l'Afghanistan. L'Afghanistan è stato un punto, se vogliamo, simbolico, ma anche fattuale, concreto, che ha detto, cazzo, ci sono questi che hanno dominato il mondo, fino adesso non sono più capaci, se li tirano con le pieve del sacco dall'Afghanistan. Dopo 20 anni di guerra del cazzo fatta dai democratici, perché Obama era un democratico, Obama è quello che ha mandato droni su droni da miliardi di euro ad ammazzare i pakistani, ad ammazzare la gente in giro che ha fatto la guerra. Cosa succede? Abbiamo una campagna elettorale con un deficiente, un delinquente che è Biden, altro che cosa, che la prima cosa che dice è nel suo programma elettorale, non dopo, programma elettorale, dobbiamo preparare la guerra alla Cina. Si è trovato la guerra alla Russia, questi sono i casi concreti del capitalismo, ma il suo programma elettorale, se ve lo andate a leggere prima dell'elezione, guerra alla Cina, chiudere i rapporti con la Cina, chiudere i Taiwan, chiudere queste cose. Ha detto questo il democratico americano, è questa la situazione. O noi capiamo che sta cambiando questo, che è finito quel mondo, che il multipolarismo di cui ci parlano potrà piacere a qualche, come si può dire, nostalgico dell'URSS stalinista, ma non ci va bene, è chiuso questo mondo. E noi abbiamo un problema politico di fronte a questo, che non lo risolviamo oggi, ma lo dobbiamo avere. Di fronte a questo noi non abbiamo equidistanze, siamo contro la Russia, contro gli Stati Uniti, contro l'Ucraina. Dobbiamo praticare il disfattismo nei termini generali di quello che vuol dire, ma il disfattismo è stato chiuso al proletariato come prospettiva dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Capiamoci. Non è stato possibile nemmeno che la borghesia si riferisse su qualcosa al centenario della Prima Guerra Mondiale. Mattarella ha fatto un discorso da Trieste in cui non ha avuto neanche la forza politica dopo 100 anni di dire che l'esercito italiano nella grande guerra, Prima Guerra Mondiale, era una banda di delinquenti che tutti i prigionieri di guerra che sono finiti in mano agli austriaci, non hanno ricevuto un pacco della Croce Rossa, uno, perché avevano combattuto male e si erano venduti al nemico. Non ha avuto il coraggio di dire che i soldati italiani che scappavano dalle trincee venivano messi di fronte alle trincee perché gli austriaci gli sparassero contro. E gli austriaci, tra l'altro, che gestivano intelligentemente, cercavano di non farlo. Caporetto, i soldati non volevano combattere, non è successo altro, se ne sono andati dalla guerra e hanno trovato i carabinieri di fronte che gli sparavano. Allora, è questo che noi abbiamo di fronte, non c'è più questa tradizione che allora è stata distrutta, è stata massacrata, poi c'è stato il frontismo, lì c'è il campismo. Sentiamo gente che ci racconta che l'URSS è l'ultimo antiimperialismo esistente, ma per favore. Ma per favore, Putin è un capitalismo. All'inizio dell'anno scorso hanno mandato i soldati in Kazakistan, gli Spetsnaz, a schiacciare la repressione degli operai in lotta. Hanno fatto questo i russi. Il russo è questo capitalismo. È questa gente di merda, di oligarchi che ci sono. In Ucraina sono lo stesso. Assistiamo a una guerra per bande. Tutti quelli che sono contrari, che vogliono fare una trattativa, diventano corrotti e vengono fatti fuori dal regime di Zelensky. Non è che succede altro. E qui abbiamo gente che parla, tutta gente in età che non va in guerra, che non ci va per sesso, che non ci va per ruolo politico, che dice che gli ucraini devono combattere e devono continuare. Questi disgraziati muoiono sotto le bombe russe, muoiono sotto questa guerra. L'unica cosa... Sì, non sotto, alle volte capita anche questo, poi noi qualcuno li vendiamo. Allora, dobbiamo dire che la guerra va finita subito. Più dura la guerra, più possibilità che si cada. Nella guerra mondiale ci sono, ci piaccia o non ci piaccia. Noi dobbiamo entrare nella comprensione che il capitalismo ha finito, non è più in grado, non è più capace, vorrebbe, ma non ci riuscirà a tenere il confronto, il contrasto in termini pacifici, tra virgolette, fa eserciti. Non ci sarà un indice che ci dice raggiunto questa produzione di armi, entriamo in guerra. Ci troveremo in guerra, ci troveremo dopo una conferenza di Monaco, casualmente, chiuderò qui. Seconda guerra mondiale, c'è stata la conferenza di Monaco che tutti dicono che è stata una farsa, non è servita. Ma la conferenza di Monaco c'è ancora. L'anno scorso c'erano i russi, è stato il 24 febbraio l'invasione, era il 22 la conferenza di Monaco. I russi erano lì, si sono guardati in faccia, si sono salutati, si sono raccontati e due giorni dopo i russi sono partiti e tutti dicevano i russi non partono. Quest'anno i russi non li hanno invitati. Ma è questo, non crediamo a chi ci dice che fanno la pace. Noi dobbiamo interrompere il flusso di armi all'Ucraina, prima cosa chiudere con la politica del nostro governo e prima finisce meglio è, soprattutto per gli ucraini, ma per noi anche. Ma se Biden vuole rompere con la Cina è dura, eh? Cioè la Cina intanto produce il 50% delle terre rare, cioè quelle che servono per i chip, per il silicio, cobalto, eccetera, eccetera, no? Anche per le come si chiamano? Le batterie delle macchine elettriche. Tesla, se vuole fare la macchina elettrica, non so come si dice, se è Musk o chi è, c'ha bisogno della Cina, cioè delle terre rare della Cina. Ci sono anche in altre parti del mondo, però insomma. E i chip, quando dopo la pandemia, che c'è stato un blocco della logistica, che non funzionava più, la logistica è importante, eh? Cioè tutte queste navi che vanno in giro con i containers che partono da qua e di là le merci, i chip se non si trovavano più. Io faccio un esempio molto banale, mi hanno rinnovata la tessera sanitaria, che era scaduta quella vecchia, il chip non c'è. È strano, dice, come mai? Sono andato all'ospedale, dice, ma non funziona, perché il chip non c'erano. Questo è il fatto. Quindi la divisione internazionale del lavoro, che è stata che si è realizzata negli ultimi 30 anni, è difficile ritornare indietro. C'è stato un fisico, Franco Maloberti si chiama, che ha fatto un articolo molto interessante. Quanto ci vorrebbe per far ritornare la produzione di chip negli Stati Uniti? Una decina d'anni come minimo. Ammesso che, perché non è così semplice e facile, no? Se facciamo i chip è una parola, cioè ci vogliono tante macchine, ci vuole materie prime, eccetera, eccetera. Ci vuole anche chi ci fa i profitti, certo, ovviamente, perché sennò nessuno si muove. Questo, diciamo, questa osservazione mi spinge anche a rivedere la nozione che è classica, che abbiamo sempre imparato, non dico a scuola, ma comunque l'imperialismo di Lenin, quello, l'esportazione di capitali, diceva Lenin, la Luxemburg diceva no, esportazione di merci, insomma c'era questo contrasto allora. Ma sì, in quella fase del capitalismo era giusta l'analisi, cioè i grandi monopoli con base nazionale avevano necessità di espandersi. E poi rispondo anche ad Emilio che diceva il popolo di una certa nazione appoggiava l'imperialismo, certo che l'appoggiava, perché c'erano dei ritorni anche per la classe operaia, cioè che con la ricchezza rapinata nelle varie colonie, eccetera, eccetera, qualche briciola gli cadeva, insomma, questa era l'aristocrazia operaia di Lenin, penso che qualcosa c'era. Lui si aspettava le rivoluzioni in Occidente, purtroppo non ci sono state, è andata a finire così. L'imperialismo, lui diceva, era la fase ultima, suprema del capitalismo. No, ci sono state fasi dopo, c'è stata una fase dopo, in cui le multinazionali, le grandi multinazionali fanno il bello e cattivo tempo a dispetto anche di grandi stati, non solo di stati che contano poco, ma anche, guardiamo, l'Italia conta anche poco, però qui se ne stanno andando tutti, dalla GKN alla Portovesme, recentemente hanno chiuso pure, cioè lì in Sardegna, stanno chiudendo, vanno in altre parti. E Trump fece un tentativo di riportare l'industria automobilistica negli Stati Uniti e convocò i manager, fra cui c'era anche Marchionne all'epoca, Chrysler, Fiat Chrysler, e disse, intanto gli aveva già assicurato alla Chrysler, che Obama gliela regalò a Marchionne, che il salario era sceso da $30 all'ora a $15 l'ora, quindi questa era già una concessione. Poi le tasse, eccetera, eccetera, cercava di farli ritornare, no? Dice, ritornate che qui trovate. Non ebbe molto successo, perché i manager lo guardarono e dissero, sì, ma noi qui dietro abbiamo il Messico, con due dollari, quindi... sostanzialmente non riuscì nella sua manovra, cioè non è facile, insomma, sì, ma perché le multinazionali cosiddette, le grandi corporation, che hanno un potere non solo industriale ma anche finanziario, perché le grandi corporation poi maneggiano i soldi, cioè si pensa che la Federal Reserve stampa soldi, il dollaro stampa fino a un certo punto, perché sì, si è sganciato dall'oro, questo lo sappiamo, però quindi può stampare, ma stampare a che cosa serve? Cioè se poi non è, con questi soldi le banche non fanno crediti, cioè possono finanziare le banche, certo, ma le banche poi devono far credito, devono accrescere il capitale creditizio, devono accrescere il debito, e quindi il debito, poi c'è la crisi dei subprime, che c'è stata nel 2008, perché poi c'è l'insolvenza e nessuno più riesce a pagare. Quindi, diciamo, gli stati non è che hanno, per carità, non è che hanno perso le loro, sul piano economico hanno perso molto, l'economia mista non esiste più da nessuna parte, forse in Cina, non lo so, cioè bisogna vedere, ci sono ancora le industrie statali. Sul piano economico hanno perso molto, certo, conservano la capacità sul piano repressivo, militare, eccetera, eccetera, però diciamo incontrano molti problemi rispetto a quella che era la fase classica dell'imperialismo, secondo me, per la politica fino a un certo punto riesce a condizionare l'economia. Ecco, questo è chi c'era? Qualcun altro? C'è Toto, poi l'Antonio, perché si era alzato, prenotato prima. Tieni. No, la mia è una cosa molto semplice, no? E comunque ringrazio sempre il Centro di Documentazione contro la Guerra per le loro ricerche, le informazioni che vengono fuori, ma soprattutto perché siamo anche in streaming, no? C'è un po' rispetto, qua siamo in un posto autogestito, quindi dove si incrociano tanti bagagli di ricchezze rispetto a quello che sono le lotte sociali che si portano avanti sul discorso della casa, della sanità, del no alla guerra. Ma la domanda che un po' mi ponevo anche a me stesso, no? è come riuscire rispetto a questo discorso della guerra, no? Quando io, cioè, mi ricordo, cioè negli anni 90, quando si parlava di guerra, c'erano migliaia e migliaia di persone nelle piazze, e non solo nella piazza milanese, ma nelle piazze di tutta Italia. C'erano queste radio, queste fantomatiche radio libere, come Radio Popolare o a Roma Radio Città Futura o in altri posti, non so, no, che cioè, erano subito, no, e quindi migliaia di persone in piazza. Oggi il discorso che la domanda che mi faccio io e che pongo anche a voi altri, no, relatori e anche alla platea, è un po' come, cioè, come possiamo noi, no, che siamo gente vitale che vuole vivere contro queste forme qua, agire sul proprio territorio e altri magari sui propri territori rispetto a quello che è il contrastare questo discorso della guerra finanziato da tutta una serie di meccanismi che non è lo Stato finanzia un po' tutti questi meccanismi, dall'ENI e compagnia bella, no? Come possiamo essere presenti e a dire no, c'è rutto cazzo, come dico io, no? E mi faccio delle domande, dico, non so, potremmo andare, c'è la Banca Tardi Italia e quindi andare a volantinare là davanti, ci sono delle fabbriche che in termini di tecnologia producono del materiale e quindi potremmo andare a volantinare là. Ci sono tante forme di come poter, potremmo anche in termini come facevano una volta i situazionisti, costruirci un carro a bicicletta come una volta tantissimi anni fa abbiamo fatto nella Mayday noi di questo posto, no? E andare normalmente in giro per la città con un grosso impianto rispetto a quello che è il anche che dice questa fottuta legge di come tu i decibel agli orari, e comunicare e fare queste robe contro la guerra, pedalare e quindi cercare di cioè non lo so, cioè, in qualche modo dal mio punto di vista I territori, no? E la Lombardia cioè, è una fucina economica, no? Di sfruttamento lavorativo alla popolazione, soprattutto invisibile, che lavora in questi meccanismi che producono questo mondo di oppressione. Quindi in qualche modo, secondo me, la gente e noi altri soprattutto, fantasiosamente tirare fuori delle idee come quelle che ho tirato fuori io prima, non so, i cartelli a collo in 3-4 persone, andarne davanti a questi cazzi di enti, cioè, non lo so, ma cercare di porsi, esprimersi, perché sul campo, no, come io dico in dialetto, vedendo e facendo, sul campo si acquistano e si riesce a trasmettere tutta una serie di robe, no? Di tanta gente che non sapeva. Faccio un esempio banale che va al di là di questo discorso contro la guerra, ma anche questa è una guerra che lo Stato fa soprattutto a della gente che si oppone contro il mondo che opprime. Rispetto al discorso caso Cospito, Alfredo, tanti detenuti, no, oggi iniziano a fare di nuovo lo sciopero della fame, come anni addietro, rispetto a quello che era un trattamento più umano, c'erano rispetto ai 700 ed erano arrivati a un numero mastodontico a fare lo sciopero della fame. Oggi, rispetto a quello che è il discorso Alfredo, Cospito, 41 bis, tortura, morte, un casino di questi detenuti, voi ammagliati rispetto a quello che era il discorso di come erano finiti dentro, rispetto a quello che era il gestione mafioso in Italia, e che i loro capi non ci sono più perché sono stati ammazzati. L'ultimo che si sono pigliati è stato... il denaro là. Voi, per quello che è il discorso di ignoranza, questi non reclamavano il loro medico personale. E quindi questo fatto ha scardinato. Ma a cosa bisogna arrivare? Noi siamo tanti, sia stasera qua. Siamo tanti, come si diceva a Genova, loro sono un cazzo e noi siamo migliaia. È questo che l'invito faccio anche a quelli che sentono in streaming, no? Cioè di pensare realmente anche a quelli che ci ascoltano come controllori, di pensare realmente ai loro figli. Io sono Antonio della Federazione Anarchica Italiana. Io ringrazio i compagni che sono intervenuti con queste analisi interessantissime, comunque non nuove in ogni caso, comunque belle, fatte bene, però manca un pezzo secondo me, manca un pezzo in tutta questa discussione che sono la gente, le persone, quelle lì che poi dovranno mettere la sabbia nel motore del militarismo. Come si fa a fare questa cosa qua? Non lo so. In questo momento sicuramente la situazione non è quella migliore. Lo vediamo perché non c'è neanche una risposta. Speriamo domani ci sia una risposta su quelle che sono state l'ennesima strage di Stato in mare l'altro giorno a Crotone. Non c'è una sulla questione guerra, non c'è una spinta emotiva da parte delle persone a scendere in piazza, perché la guerra tanto ormai ci hanno fatto l'abitudine, poi non è così vicina, le bombe stanno su a qualche migliaio di chilometri e comunque non sembrerebbe che non ci tocca, invece ci tocca con 104 miliardi al giorno che vengono stanziati per le spese militari, ci tocca perché le scuole sono quelle che sono, ci tocca perché la sanità è quella merda che è, eccetera eccetera, e ci tocca perché oggi credo che dobbiamo fare una cosa che è quella di organizzarci contro il militarismo. Io è una delle cose su cui penso che bisogna lottare, bisogna provare a vedere di come fare a spostare questa opinione pubblica, queste le persone che lavorano, che stanno in giro, che non solo quelli che producono, ma quelli che vivono l'umanità in qualche modo. Noi pensiamo dopo martedì 7 alla Federazione Anarchica Laterano Libertario, cerchiamo di mettere in piedi un'assemblea antimilitarista. Sono tutti quanti invitati, compagni. Certo, l'obiettivo sono almeno un minimo comune denominatore, che è quello della che non siamo né con la Russia né con l'Ucraina e neanche con la NATO. Per cui, voglio dire, la situazione, siamo contro la guerra, ma siamo per la rivoluzione. Tra l'altro, io volevo parlare di questo, del fatto che con l'interesse enorme di questi dati mi sentivo mancare la parola rivoluzione, perché è un po' come dire che tutta questa urgenza, che è determinata dalla smania sempre di valorizzazione e distruzione, perché la distruzione è il presupposto della valorizzazione capitalista, lo sappiamo già, e da sempre sappiamo che il sistema capitalista e lo Stato, che sono in combutta da sempre e soprattutto negli ultimi decenni sicuramente, per opprimere e sfruttare, non possono far altro che dipendere dalle forze di chi viene sfruttato. Cioè, il vero discorso è che le strutture, diciamo carcerarie come il sistema attuale, vivono sulla collaborazione dei reclusi, dei carcerati, degli oppressi. Cioè, le energie non sono nuove, diverse, sono sempre le stesse energie di chi viene assoggettato e di chi in qualche modo, obbedendo, si assoggetta. Quindi è un discorso, la guerra, che è un'occasione per ribellarsi, è un'occasione per disobbedire e quindi pensare in grande, come ha detto qualcuno prima. Cioè, il discorso è che la sfida, essendo elevatissima, comporta un impegno veramente radicale di scardinamento totale del sistema, anche del welfare, anche dell'industria, anche di qualsiasi struttura che ci stia tenendo alla sua catena. Cioè, o qui fai un discorso di grandissima radicalità e di enorme diserzione, prima ancora che militare, sociale. Cioè, noi non siamo lo Stato, io non riconosco la Russia, per me non esiste l'America, per me non esiste l'Italia, per me non esistono i partiti, le forze politiche. Io sono un essere umano che non voglio essere ricondotto a questi fattori, a queste etichette, a queste considerazioni, a queste irregimentazioni. Appunto, la mia è una diserzione che oltretutto, diciamo noi qua, sono decenni, anni, è una vita che noi siamo disertori di questo sistema. Miglior occasione di questa, in cui è evidente che non esiste nulla di buono per chi sta collaborando, per chi ancora si piega, per chi ancora in fondo si sente chiamato al gioco, a sopportare. E che cazzo, basta. Cioè, il discorso è basta. Gli zapatisti hanno detto ya basta, con dei fucili da cazzo, di legno dipinto, hanno preso delle comunità che sono ancora comunità zapatiste, ok? Perché la realtà è zapatista, non è ancora diventata americana. Cioè, va bene, gli americani però, senza la forza di lavoro, senza l'obbedienza, non possono fare niente. E poi dico un'altra cosa che viene dal mio lavoro: senza le tasse gli stati non comprano un cazzo. Cioè, sono le tasse, questi che parlano contro l'evasione fiscale e si sentono di sinistra o compagni, io li sputerei, perché non capiscono che sulle tasse si fonda il potere che li schiaccia e sono loro che gliele danno, hai capito? Quindi il punto è lì, Cioè la diserzione è questa. Io lavoro per dare da mangiare ai miei figli, ma non voglio la mediazione dello Stato, non voglio la garanzia, l'assicurazione dello Stato. Il welfare, tanto io sono 2 anni che non riesco a avere un cazzo degli ospedali pubblici, paghiamoceli noi. Le scuole paghiamocele noi. Facciamo delle scuole di compagni, degli ospedali di compagni, delle coltivazioni di compagni, controlliamo la nostra vita, basta dargliela allo Stato, basta dare la vita allo Stato, non si deve più, perché loro ti mandano solo i figli al fronte e adesso col femminismo mandano pure le femmine e vaffanculo, e pure i gay, ecco, ciao. Però sullo striscione scriviamo e che cazzo basta, e che perché cazzo basta, basta. Sono. Io parlo perché siamo restati in pochi, è più intima e sono più, come dire, portato a parlare in queste circostanze. Tu sei quello che ha scritto il libro Guerra... La guerra che viene. Guerra civile globale. Guerra civile globale, sì. Grazie, perché intanto volevo ringraziarvi perché la nostra, ci sono dentro anche io, questa conferenza... Sei bella, bella forte, ecco, io condivido in pieno la tua analisi, condivido anche ciò che diceva il compagno Isaac prima sulla questione delle rivendicazioni sindacali, perciò posso dire che sono completamente in sintonia con questo tipo di impostazione. L'elemento centrale, che io non è che lo voglio trattare perché mi interessa mettere l'accento su questo, è che purtroppo manca, come diceva un altro compagno, cioè il trasferire questa alla classe. Io in queste 2 settimane ho fatto 2 presidi e 2 assemblee, tutte donne, una 30ina di donne, e c'era scritto contro lo striscione, dello Sly Cobas, che io lavoro nello Sly, ma sono comunista però, contro la guerra del capitale, lotta di classe internazionale. Cioè, però quale rive? Io non sono pacifista, ma sono contro la guerra. Guerra la guerra, una volta si dice, siamo d'accordo, guerra. Mi è piaciuto molto quell'esempio che hai fatto. Prima era una piccola discesa, mo stiamo precipitando. Insomma, è proprio così. A parte che io non devo aggiungere niente a ciò che avete detto, perché potrei anche dire che alcune cose che avete detto li condividevo, già lo sapevo prima, non c'è problema. Ma adesso volevo chiudere quasi con una battuta, no? Io sono un comunista internazionalista, non è che mi schiero né con Putin né con... Ecco. Volevo dire, tu che sicuramente ne sai più di me, sto leggendo questo libro, volevo sapere per schierarmi poi, Terza Guerra Mondiale. Questo non so chi è, Giarracco. Però vi devo dire che sarà un borghese, non so che cazzo è, però ha centrato l'obiettivo, perché questo qua cosa ha fatto? C'è una tabella di tutte le bombe atomiche che ci sono nel mondo. 3.700 gli americani, no, i russi, 3.300 gli americani, 90 gli israeliani, 20 a Gedi, 20 ad Aviano, un macello. Però lo conosci questo qua? No. No. Volevo sai perché? Sì. Perché questo, sai cosa dice? Ha cominciato a scriverlo quando è partita la guerra in Ucraina, non è che è vecchio. Dice che nel Golfo della Florida, no? Dall'altra parte dell'America, sono arrivati tre sommergibili, quello che dicevi tu, 3 sommergibili russi e uno con 160 testate nucleari a bordo. Sono arrivati in questo cazzo di Golfo della Florida, hanno ispezionato, un altro con 5 testate, un altro 6, insomma... Il giornalista, questo qua, dice che se volevano i russi, in 10 minuti avrebbero distrutto parte dell'America. Magari gli americani sono più arretrati. Io ho detto, cazzo, noi dobbiamo combattere contro il capitalismo, ho pensato io. Andiamo in Russia, perché i russi distruggeranno tutto, combatteremo contro il capitalismo. Era battuto per andarcela a letto. Comunque è vero, Cazzo, ci sono dei missili che non si... I cosi, i sommergibili, invisibili ai radar. Gli americani se ne sono accorti quanto se ne stavano andando. Sono più forti i russi, ragazzi. Andiamocene in Russia, vaffanculo. Va. Non so chi sia il libro, però ho dato un'occhiata molto veloce. Dico, no, ma non mi interessa che sia un borghese. Ci sono anche borghesi che ne sanno meglio di altri. Non c'è questo. Attenzione però che tutte le idee, analisi, libri, eccetera, che comunque alla fine ti prospettano la soluzione. Adesso tu sei più tranquillo, no? Perché vi scoperto. Ecco, invece non bisogna stare tranquilli. Primo, non bisogna crederci, e secondo, non bisogna stare tranquilli. Loro diranno questa cosa, noi vogliamo indagare ulteriormente, perché partiamo dal presupposto che non ci basta la loro spiegazione. No, ma sai perché? Adesso un'altra battuta. Quando c'è stato lo sciopero del 1° maggio l'anno scorso, ho dato la bandiera di Marse con la fotografia di Marse al palcio e martello a una donna, ma che donna, una ragazza lettone, e gli ho detto, ma gli ho detto che se ne tornava in Russia, si è messa là con la bandiera. Se andate su Facebook, io ho Facebook, l'ho messa là, ma una compagna della Madonna, ho detto parla con Putin, vedi se ci possiamo mettere d'accordo, e tu non ti preoccupare, ci parlo io.